Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Era il gennaio del 1890, quando si consumò una delle più grandi stragi dell'uomo bianco nei confronti dei nativi americani. A Wooden Knee, il cuore degli indiani d'America, smise di battere, ma non la loro voce, che con grande forza ha ripreso a combattere. Quando avrete abbattuto l'ultimo albero, quando avrete pescato l'ultimo pesce, quando avrete inquinato l'ultimo fiume, allora vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. È stato il grande spirito a porre qui la terra e non possiamo venderla perché non ci appartiene. Potete contare il vostro denaro, ma soltanto il grande spirito sa contare i granelli di sabbia e i fili d'erba della nostra terra. Signori, eccoci qui, bentornati, Radio 24, Voice Anatomy in diretta dagli studi di Roma. Sono le 14:31 e 37 secondi. Vi ricordo i nostri numeri per partecipare in diretta con noi: 800 24 00 24 per le vostre dirette telefoniche, mentre per gli SMS, lo sapete, quello lo conoscete perfettamente perché ci inondate, 349 238 6666 e ovviamente tutti i nostri social che cominciate a conoscere perfettamente. Su Facebook abbiamo una bellissima pagina di Voice Anatomy, c'è il nostro Twitter, c'è un po' tutto, insomma, lo sapete perfettamente. Ma soprattutto c'è al mio fianco, come sempre apriamo con un grandissimo o una grandissima protagonista della voce, lei lo è in tutti i sensi. Io non voglio dire quando è nata, perché comunque se la vedete non ha quell'età, c'è un piccolo commento e un sospiro. È un'attrice, è una doppiatrice, è una direttrice di doppiaggio. È figlia d'arte. E di che arte? Lui era ed è per sempre, sarà per sempre Oreste Lionello, sorella dei doppiatori, attori Alessia Lionello, Luca Lionello, di Fabio, che salutiamo tutti, di Davide. Ed è nota soprattutto per essere una grandissima doppiatrice. E soprattutto la voce di una delle donne più sexy, che è Sharon Stone. E più intelligenti. Sì, scusami, non ho detto più intelligenti. È Sharon Stone o Cristiana Lionello? La Lionello. Ah, la Lionello. Ecco, benissimo, potete capire che oggi sarà una puntata bella e importante. Quando hai cominciato, Cristiana? Chi ti ha fatto cominciare? Quando hai cominciato? Quando hai scoperto che amavi questo mestiere? Quando sono nata. Subito? Sì. Il primo vagito a sink hai fatto? Sì. No, no, non con quella della culla vicina, no. Cioè hai doppiato la bambina vicino a te? No, quando ho iniziato ad avere insomma un po' di l'età della ragione, diciamo, che è venuta verso i 4-5 anni. Beata te, io ancora la devo raggiungere. Io volevo fare l'attrice e mio padre non voleva che io la facessi. Però io stavo sempre attaccata a mio padre. E lui continuava a dirmi: no, non lo fai questo mestiere, perché lui essendo ometto. Lui faceva, diceva no, no, no, no, no, no, no, no, come Woody Allen, no, te lo diceva. No, non lo fare. E io volevo fare il teatro, tant'è che iniziai col teatro, non col doppiaggio. Il doppiaggio per me mi piaceva tantissimo, ma non riuscivo tecnicamente a andargli dietro, perché io guardavo il film e non attaccavo mai. E quindi quello passava la scena e io muta stavo. Sei diventata siciliana tutta. Tu sei nata a Roma, no? Io sono nata a Roma. A Roma sono nata. A Roma si sente. si sente che sei di Roma. E per cui non seguito, preferivi no, il teatro? Ho debuttato in teatro a 15 anni. Con la Mazza Mauro. Con Anna, che con adesso Anna ho visto Mauro. Che sta in giro per Roma con un suo spettacolo, Nuda e Cruda. La saluto. Uno spettacolo che ho intitolato Brutta e Cattiva. Ma non eri tu, era Anna. Era Anna si massacra sempre ogni volta. E prese questo gruppo di ragazzi piccolissimi, giovanissimi, e io venivo accompagnata a teatro o da mia madre o dalla balia di mio fratello Davide, vestita di bianco con la crestina in testa, In prima fila. Dove sei? A Don Tonebbi? Dov'è? Al Teatro delle Muse stavamo. Sì, anch'io ho cominciato lì, penso. Io finivo lo spettacolo, lei mi prendeva e mi portava a casa. Eh sì, perché c'è la legge proprio che non permette a un minorenne di stare da solo se non accompagnato, e soprattutto non può rimanere un minorenne in scena oltre un orario importante. Ci sono dei minorenni che non possono prendere l'applauso in scena perché devono tornare a casa. Io lo prendevo tutte le sere. Chi se ne frega. E tu te lo tenevi lì. Senti, la tua voce è questa di adesso, ma io intanto voglio aprire con un piccolo contributo tratto da un film straordinario che tu hai fatto. Insieme a te c'era il grande, l'abbiamo avuto anche ospite, il dottor Kevin Spacey, il numero due del doppiaggio italiano, come lo chiamo io, e lui si arrabbia sempre. Aspetta, mi ricordo, chi è che faceva Kevin Spacey? Come si chiama? Tu eri Annette Bening. Annette Bening. Oddio. American Beauty. Ma davvero? Niente, levategli, che cosa gli avete dato? Pedicini. Caffè. Esatto, Roberto Pedicini. Ascoltiamo un momento di Annette Bening con la voce straordinaria di Cristiana Lionello, American Beauty. Buongiorno, Jim. Buongiorno, Caroline. Mi piace la tua cravatta, quel colore. A me piacciono le tue rose. Dai, avanti, come fai a farle fiorire così? Beh, te lo voglio dire. Busci d'uovo e Miracolo Flora. Jane, tesoro, stai cercando di sembrare un fagotto. Sì. Congratulazioni, ci sei riuscita a meraviglia. Lester, potresti farmi fare un po' più tardi, per favore, perché così non lo è abbastanza. Grande film e grande interpretazione. Poi tu ti trasformi, perché sei tranquillissima nella vita come lo sei adesso davanti al microfono. Ma poi ti trasformi, c'è una sorta di transfert quando stai davanti a una pellicola. Io mi infilo nell'anima delle persone. Meno male che l'hai detta tu sta parola, va bene. No, sì, no, è importante che potevo. Sia stata tu puoi farlo e non... Ti infili nell'anima delle persone, ma è quello poi che deve fare. Sì, devi doppiare gli occhi, mi diceva il mio babbo. Sì, gli occhi raccontano tutto. Io non tutto. Ti devo dire niente, mi diceva, faccia. Faccia, perché dava del lei a lui me quando... del lei a tutti. Giocava con questo lei e però imbarazzava. A me lo ha dato sempre sul lavoro. Signorina, grande. Si accomodi, signorina. Faremo una puntata speciale signorina, su... Signorina, lei è una ladra! No, grande ironia. No, faremo una puntata... su Oreste Lionello, col permesso di tutta la famiglia, anche se oggi faremo ascoltare un momento molto bello che Oreste ci ha regalato, doppiando un grandissimo personaggio che era Charlie Chaplin, sì. Ma lo faremo sentire alla fine del nostro appuntamento e faremo sentire la sua grande interpretazione del Grande Dittatore, dove è un monologo fatto non so quante decine di anni fa, ma tuttora attualissimo. È la prima volta che parlò Charlie Chaplin. Sì, è vero, nel Grande Dittatore. Ma un monologo da prendere proprio a mettere nelle scuole, perché era questo dittatore che però ha fatto un discorso al contrario. Meraviglioso. Grande intuizione. Come hai fatto a fare l'adolescente e la professionista in quel periodo? Cioè, i 15 anni? Andare sì, a teatro, a doppiaggio? Sì, a fidanzati? E com'è? Pochi. Sì. Solo tempo. Ecco. Poi te sei rifatta però, non di fidanzati. No, perché poi mi sono sposata prestissimo, ho fatto figli prestissimo. È vero. Prestissimo. Perché ho incontrato tuo figlio questa settimana che aveva una certa età. Io ho detto, non puoi essere figlio della mia amica Cristiana che ha sempre... Perché l'ho adottato. Esatto, perché tu hai 36 anni, perché lui ce n'ha 32, 33, quanti ne ha? 33. È un anno importante per lui questo, cammina sulle acque, no? Sì. Però in soldoni poi alla fine mio padre ha visto questa mia passione così straboccante che proprio gli avevo fatto e mi ha detto va bene, allora perché in accademia non mi ci ha voluto mandare. Alla fine mi ha detto vabbè, fallo. Fallo. Disse la scuola ce l'hai in casa. Ma in effetti devo dire papà, quelle volte che ho avuto dei contatti importanti con lui sia nel doppiaggio ma nella vita e anche quando andavo ad applaudirlo, era una persona straordinaria, era grande umiltà, sì. Grande ambizioni, ma soprattutto grande dedizione nel lavoro. Solo quello. Ma è stato anche un padre importante, sai, un padre così. Padre, lui è stato un personaggio importante. Padre non lo sapeva fare, non lo so se... Forse quello è un altro modo di fare il padre. Perché uno che dice ai tuoi fratelli potete menare vostra sorella ma non mia figlia, tu capisci come siamo cresciuti. Cioè, non è che dire che era Amendola che doppiava Stallone, per cui stava un discorso così. Era Woody Allen, era Gene Wilder. Sì, perché noi siamo cinque e si litiga tra fratelli. Credo abbia trovato la strada giusta, però, di allora, gonfia tranquillamente tua sorella. Ma non menare mia figlia. Ah, sì, E io le botte le beccavo lo stesso, perché loro dicevano: ha detto che possiamo menare nostra sorella. Quella, ma io sono anche la figlia, non avete capito niente. Però era Woody Allen anche in questo, c'era un film, Radio Days, però Woody Allen diceva: io sono cresciuto con mia madre, che mio padre picchiava mia madre picchiava me, i vicini picchiavano mia madre e mio padre e quelli del quartiere gonfiavano i vicini, per cui tuo padre che abbia preso in prestito questa situazione per poi portarla avanti. Ma molto avanti. Prima di Woody Allen, però, la disse questa frase. Sicuramente sì. Senti, per cui insomma, però a quel punto è stato un padre insegnante, un padre professore. Sì, un padre maestro in tutto. E sai, non è facile quando un padre è così dominante, anche se è sempre molto disponibile, molto carino, ma non facile, non... Pensa che a noi questa cosa ce l'hanno domandata da tutta la vita. Immagino. Che vuol dire? Che vuol dire avere un personaggio? Vuol dire la cosa più bella del mondo. È la cosa che ti deve... Una cosa così rara, no? Ma ti è capitata a te proprio, no? E tu dici, beh, è meraviglioso. Sì, mai perché... ci siamo mai messi in competizione o mai abbiamo voluto superare lui... Impossibile. Sì, sarebbe stato non è facile. Ci siamo un pochino avvicinati, forse io e Luca, nella recitazione, però io vengo proprio dai suoi insegnamenti. Ma anche perché poi un figlio lo vede come padre, poi che sia anche un personaggio, ma non lo vede il personaggio, vede un padre importante, sicuramente con grande personalità. Tu pensa, quando papà ha pensato bene di salutarci qualche anno fa, ormai sono sette anni, noi chiamammo subito Woody Allen per una... avevamo quel periodo il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e chiedemmo a Woody Allen di rilasciare alcune parole su Essere la Luce. Ha messo poche ore di risponderci, differenza d'orario dove stava lui a girare, ci ha risposto immediatamente, ha detto: assolutamente avrete una mia dichiarazione su Oreste Leonello. Il giorno dopo ha girato un video di 3 minuti che poi io personalmente con la mia società abbiamo girato tutti i TG, perché dove lui proprio racconta che grazie a Oreste Leonello è diventato un personaggio amato in Europa, era proprio il modo giusto, l'ha reso un attore migliore europeo. E infatti loro hanno fatto sentire sempre il doppiaggio di papà in Germania, in Spagna, in Portogallo, in Francia, per cercare di ridare quell'umanità che papà riusciva a dare nelle incertezze di Woody Allen, nei tartagli di Woody Allen, anche se non ci sono riusciti quasi mai. Impossibile. Se fate un doppio audio con tutte le altre lingue, Woody Allen non ce n'è per nessuno. Oreste era straordinario, e quando ci insegnava a noi come doppiare il protagonista di un film di Woody Allen, era una lezione non solo di vita, ma artisticamente alta, difficile, perché difficile. Poi è un modo di recitare, tu sai perfettamente, quelle interruzioni, quell'allungamento improvvisi. Quelle interruzioni che devono comunque sembrare vere, no, devono essere vere. Assolutamente. È complicato. Infatti lui mi spiegò, c'era una battuta in Melinda Melinda che hai fatto anche tu, l'hai doppiato anche tu, e io non ti ricordi, non mi ricordo, ma niente. Dai, era Melinda Melinda che facevo Will Ferrell, tu facevi la fidanzata. Ah, ciao. E c'era un momento in cui tu dicevi: dobbiamo presentare a Melinda e quel dentista. E siccome lui era, Will Ferrell era innamorato di Melinda, e il giorno prima era uscito con un altro medico, la battuta era scritta: no, non dobbiamo farlo uscire con questo medico, perché tanto la differenza è soltanto orale. Perché questa era la battuta, ma detta così funzionava meno. Allora bisognava, come disse papà, allungare, dice, è inutile uscire con questo dentista, perché la differenza con il dottore di ieri è soltanto orale. C'era queste interruzioni ed era pazzesco, difficile. Infatti io ho tartagliato per una settimana a casa, non riuscivo. Io il primo film di Woody Allen è stato che ho fatto, e non per merito di mio padre, perché non voleva assolutamente che io lo facessi, e ha provinato penso tutta Italia prima di arrivare a te. No, perché mia madre una sera gli disse: ma ti prego, questa piange dalla mattina alla sera, faglielo fare il provino, che ti importa? No, poi sono tacciato di nepotismo. No. Qual era Manhattan nel Manhattan film? Ah, grande. Tu hai fatto Mary Hemingway. Fantastico. Allora, ha provinato tutta Italia, fece centinaia di provini, li numerò, che all'epoca non usava, certo. Questo invece adesso mandano tutto in America e non ci capiscono una niente, non conoscono la lingua. E appunto, numerò tutti i provini e gli tornò il numero mio. E da quel momento ho detto, adesso lo devo fare, mi dispiace. Ma bello, bello. Il film, quello poi, credo che sia uno dei più belli, quello insieme a Ioanni, credo che sia... Un capolavoro davvero. Stiamo per andare in pubblicità, credo, sì. Il primo blocco insieme, però volevo terminare questo blocco con la tua voce, poi ne parleremo molto di più appena torniamo in diretta, che è tra pochissimo, per cui ho detto all'inizio, Charleston, signori, non sei venuta con la gonna, non so come sei sistemata, so se puoi accavallare o scavallare, ma intanto ci godiamo Basic Instinct con la voce tua, godiamo. Ma con il corpo di che nulla che invidiare al tuo di Charleston. Prego. Volevo scrivere un libro sull'omicidio di una stella del rock. L'ho rimarchiato e ci sono andata a letto. Non provava niente per lui, c'è andata solo a letto per il libro. All'inizio sì, poi mi è piaciuto come lo faceva. Le piace giocare, vero? È divertente. Di che parla il suo nuovo libro? Di un detective che si innamora della donna sbagliata. E come finisce? Lei lo uccide. Saprai solo quello che vorrò farti sapere. Il gioco è finito, Nick. Cosa si prova a uccidere qualcuno? Dimmelo tu. Nick è andato troppo vicino al fuoco. Non gli è piaciuto. Hai sconfinato. Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy, è domenica 31 gennaio, 14:47 minuti e 27 secondi, in diretta come sempre dagli studi di Roma, vicino a me la bella, sexy e grande amica con la sciarpetta adesso, non vestita come Charleston, Cristiana Lionella. Abbiamo fatto ascoltare poco fa un momento tratto dal bellissimo film Basic Instinct, e voi quando lo doppiavate sentivate che stavate doppiando qualcosa che sarebbe poi passata alla storia in qualche modo? No, pensa. No. No, perché credo uno non se ne accorga. Come i grandi cantanti scrivono una canzone in un momento magari e poi... Lei indubbiamente era meravigliosa, quindi qualcosa sarebbe successo, ma non così... Così prepotente. Beh, era molto bello, molto sensualmente alto e bello. E non, io ho visto a rallentatore qualsiasi scena per cercare di capire se veramente, beh, chiunque credo, senza fare finta di niente, il momento dell'accavallamento delle gambe, geniale, di un erotismo pazzesco. Credo che col DVD chiunque ha messo rallentatore per cercare di capire. E in quel momento, se scusa se ti interrompo. No, prego, anzi. C'era un poliziotto grassottello che le faceva le domande. Sì. E quello era il mio babbo. Oreste ha fatto il doppiaggio del grassottello? Sì. Ma pensate, facendo questa voce un po' afona. No, non ci ho fatto caso. Il bello è che non sapeva che io doppiassi lei. Ma come non lo sapeva? No, ma tuo perché padre avevamo cercato fatto di colonne, colonne separate. Gli ha preso un colpo. Ma la mia bambina. La mia bambina. Mia figlia. Senza mutandine. Non è andato a vederlo. No. Ma ti giuro, era gelosissimo. E per non sentire la tua voce in certi momenti di grande trasporto erotico. Posso credere. È capitato che abbiamo fatto dei film in cui eravamo anche fidanzati o un marito e moglie, eccetera. Con papà. Con papà, sì, sì. E lui si vergognava tantissimo di questa cosa. Beh, sai, c'è una certa inibizione di fronte a un microfono, di fronte alla propria figlia. Magari c'è anche un'inibizione da parte nostra quando doppiamo certi momenti intimi, perché ci scoccia quasi farci scoprire come siamo nell'intimo quando uno... Perché quelle cose ce l'hai dentro, no? Sono certo, sono mie, cioè, quei momenti. Anche rivedere... Tu fai così, esatto. Allora, no? Bravo! No, noi cerchiamo sempre di andare sì con gli altri. E poi dovete vedere un doppiatore che doppia una scena d'amore, che ci baciamo le mani per fare i rumoni. Adesso gli schiocchi sono in colonna, come si dice, ma sì, non tutti, una volta esatti i fiati o i baci. Non è che ti baci la... cioè, Cristiana vicino da baci volentieri mentre incidi, invece no, devi baciare le tue mani. È una sorta di autopomiciazione, una tristezza assoluta. Immagina chissà che sensualità. Solamente quello. Ci sono già parecchi messaggi che ti ringraziano, ti salutano, complimenti. c'è anche qualche messaggio della trasmissione precedente, credo che ce l'hanno un po' con qualcos'altro. Qualcuno mi chiede se la mia voce stasera sarà nel nuovo Downton Abbey. No, credo che mi abbia lasciato, non mi hanno chiamato a doppiarlo, per cui non ci sarò, credo, in Downton Abbey. Mi hanno fatto fuori in qualche modo, la protagonista si è innamorata di un altro, ma il mio era un po' coglioncello, per cui è meglio che se ne sia andato. C'è un'altra persona che dice di essere un masochista perché non gli piaccio io nella trasmissione, però ogni domenica la sente. Dico, ma c'è nient'altro da fare. Ah, bello. Però io lo leggo, no? Io leggo tutto, soprattutto i messaggi, quelli intelligenti e interessanti, o che mi fanno sorridere, come altri messaggi di altre domeniche. Però va bene, ascoltaci, magari hai visto mai D'affezioni strada facendo, all'ultimo. Poi se ti fa questo, poi evitate prendi lassativi ascoltandomi, cioè quello che scrivi è quello, per cui lo leggo serenamente, non mi preoccupo, a parte i complimenti a Cristiana e a papà ovviamente. Senti Cri, abbiamo sentito Charleston, che l'hai seguita a doppiare, seguitata a doppiarla per sempre. Sì, sempre. L'hai seguita, quando è l'ultimo film che ha fatto Charleston? Perché tuttora è molto bella. È tanto che non... Ha fatto l'ultimo film in Italia con Pupi Avati. L'ha fatto in Italia. È una bella storia quella che non vorrei raccontare. No, è proprio quella. Apriamo la sta diatriba. E poi andiamo su cose gioiose come Il Signore degli Anelli. Ma che c'è? Non lo so se aprirlo o no. No. Ma no, ma tu. No, perché mi sono doppiato o l'ha fatto in originale? No, lei in questo film doveva fare un'americana, certo. Quindi parlare male, assolutamente male l'italiano. E potevano farla ridoppiare a lei. Se stessa, appunto, ma evidentemente non gli andava. E, ho capito, da queste rallentamenti. Una delle produttrici del film è venuta a teatro a vedermi e mi ha detto: ah, ma che quanto sei brava! Ma quanto sei brava! Dico, dopo due secondi ti toglievano la parte. Sei brava, grazissime. Grazissime. E dico: ma allora ci vediamo tra un po'. C'è il film con Sharon. Sì, ma che bello. Il fratello di Pupi Avati, che è lui che si occupa di queste cose, mi ha fatto chiamare e mi ha fatto dire che gli serviva una voce americana, per cui di un'americana che vive in Italia, che non parla italiano bene. Tipo Don Lurio come idea. Yeah. Perché se no si sente che uno, capito, non è capace a fare questo. Per cui, vabbè. Noi doppiatori, perché per lui noi siamo solo doppiatori. Sì, non riesce a interpretarla. No, non siamo attori. Come vedi, me la stai raccontando la storia comunque. E te la sto a raccontare perché. Vabbè, ma mica c'è niente di male. Cioè, esistono, allora, anche questi dualismi. Questa attrice italiana, che è di madrelingua americana. Per cui non americana che parla bene italiano, cioè un'italiana. Un'italiana però di madrelingua americana. Ho capito, vabbè, quello che vabbè. E gliel'hanno fatto fare a lei, per tutte cose, ha fatto così. Poi l'hanno sentita, hanno montato tutto il film, hanno detto no, assolutamente non si può sentire. e allora gliel'hanno fatto doppiare in italiano. A lei? Sì. Ma non si può sentire lo stesso, pensa. Yeah, non possiamo dire il nome della doppiatrice. No, non... è un'attrice. È un'attrice, come mi ritengo. Sì, queste essere. Sono le vellità ogni tanto di qualche regista che sì, vuole. Perché lui pensa che i doppiatori sono doppiano, capito? C'hanno sì, non hanno quella naturalezza di un attore. Ma forse ha fatto bene, perché con tutta la presa diretta intorno. Sì. E allora è meglio così. Sì, perché sembri pazzo tu, che poi sembri quando reciti pazzo tu, no? Che mi è capitato. Dice, ma questo recita troppo bene, cioè sì, è vero. Stona. Allora ha stonato tutto il film, quindi va benissimo. Perfetto, ma poi è un film che ha avuto un gran successo. Successione. Ah, guarda, ma è giusto aprire certe situazioni, perché mi sembra veramente... Ma almeno un brovino, me lo vuoi fare un brovino? Un conto il grande Fellini, che chiedeva proprio il non doppiaggio, nel doppiaggio la cercava. Ma quanti ne ho fatti di film, esatto, di Fellini. Io so anche che tu hai avuto... hai lavorato con Fellini da piccolino, sbaglio? Hai fatto qualcosa, hai solo doppiato o hai fatto anche magari un film? No, ho fatto un provino. Un provino con il grande maestro. Con il grande maestro. E poi anche lui, quando in sala chiamava papà, che faceva tutti i personaggi del mondo del film, in prove d'orchestra ha doppiato tutto, solo papà. Sì, perché lui poi gli piaceva. Tutti gli orchestrali. Difatti papà entrava in sala e diceva: Federico, oggi te ne faccio E parlo tutte e due così di non sì. Vezzeggia Dio, anche Fellini parlava sempre sì, amoruccio, disegnuccio. Orestino, no, ti prego, mi devi fare anche quello là. E papà cambiava voce. Sì, e non te ne accorgi. No, ma non te ne accorgi. Prove d'orchestra ne ha fatti 12, no, 13, in più il direttore d'orchestra era lui in tedesco, perché parlava tedesco, ma è una cosa pazzesca. Voi provate a sentire, poi ne parleremo lungamente, Frankenstein Junior, e fare il doppio audio con Gene Wilder e Oreste Lionello. E tu, ditemi, se sentite la differenza, sembra doppiato dalla stessa persona, sembra Gene Wilder in italiano, sì, o sembra Oreste che parla in inglese dopo, cioè comunque sì, sia, dal Si può fare o tutte le scene straordinarie che conoscete perfettamente, che sono, quello è uno di quei film che quando cominci a vederlo dici vabbè vedo solo sta scena come i Blues Brothers, sì, e poi stacco e vai a finire che te lo vedi tutto. Senti, stiamo per andare mi sto strozzando, nella seconda pubblicità, ma per andare in pubblicità utilizziamo Il Signore degli Anelli. E poi torniamo so un attimo. Cos'è che hai visto? Perché anche nella mia mente. È ciò che si verificherà se tu dovessi fallire. La compagnia si sta disperdendo. La cosa è già cominciata. Tenterà di prendere l'anello. Tu sai a chi mi riferisco. Uno a uno, l'anello li distruggerà tutti. Se me lo chiedi, io ti darò l'unico anello. Me lo offri di tua iniziativa. Non nego che il mio cuore l'ha desiderato a lungo. Al posto dell'oscuro signore, tu avresti una regina. Non oscura, ma bellissima e terribile come l'alba. Infida come il mare. Più forte delle fondamenta della terra. E tutti mi ameranno, disperandosi. Sanatomi. Bentornati ancora a 15 minuti in compagnia di Cristiana Lionello. Ci siamo salutati nel blocco precedente con un altro caposaldo del cinema che è Il Signore degli Anelli. Mamma tu l'hai fatti poi tutti e sei, perché sì. Cate Blanchett, la regina degli elfi, sì, sì, appare sempre. Appare sempre, mentre il mio povero Aragorn, siccome arriva dopo che Frodo e i suoi compagni hanno preso l'anello, ero... Tutti in analisi siamo andati. No, io mi sono divertito quegli anni, mi sono sentito il re degli uomini, santa miseria. Boicottato all'inizio, bistrattato all'inizio, perché fino al segno non... Ma noi, no, ma poi era difficile l'elfico, ti ricordi? Noi dovevamo parlare anche in elfico, che già la desinenza fa ridere, cioè l'elfico è, ma doveva essere anche pronunciato bene. Io mi ricordo che c'erano in sala i tolkieniani che sapevano perfettamente le declinazioni dei verbi, ma una cosa e tutto, pazzesca. Mi hanno ripreso tantissimo. Ho detto a un certo punto Atorath, lei con la seconda, no, che Atorath? Atorath. No, dico, ho capito, ma chi se ne accorge? Noi ce ne accorgiamo, hanno ragione, rispetto... totale, che poi doppiato in bianco e nero con le bande che passano davanti, sono al cinema, capì com'era. Io ululavo, ma quanto te devono dare per fare sta cosa? Niente. La grande soddisfazione di aver fatto i monologhi più belli, però santa miseria. Mamma mia, che fatica. E soprattutto i combattimenti con gli orchi, che poi io non riesco a dire. Si dice orco con la O aperta, io invece ho sempre detto orco. Invece è orco. Pipino e orco. Con Legolas, dovrò chiamarlo anche Massimiliano Manfredi, siamo dirti tantissimo, perché poi si doppiava insieme, la compagnia dell'anello era in sala, eravamo tutti e cinque in sala, col grande anche Renato Mori, che faceva più casino di noi, che era Gimli, sì, e Massimiliano Manfredi, che faceva Legolas, ogni tanto lo faceva un po' particolare, così, sì, perché era così, biondo, sì, con le orecchie a punta. Allora ha detto, attento Aragorn, dietro la colonna c'è un orco, gli tiro la freccia, e io ridevo, e il direttore si incazzava con me. Paolo Francesco Vairano. Sì, Francesco Vairano ha subito tantissimo, però facevamo... Ci rendevamo conto da questo punto di vista che stavamo facendo un grande film. Ma tu ne hai fatti tantissimi, ma veramente tanti. Qui mi chiedono, tanto ti ringraziano ancora, la tua sensualità, eccetera. Poi me non vedo l'ora di sentirti in Zoolander 2. Sì, abbiamo finito Mugatu, esce credo questo giovedì, questo film che all'inizio non ha avuto successo, questo Zoolander sul mondo della moda con Ben Stiller, eccetera. Poi invece è diventato un cult e adesso... pronto il numero due. Un'altra persona mi chiede: insegno, ma come faccio a registrare la mia performance con la S se non conosco il tempo per lasciare la mia voce? Al massimo posso dire mi illumino di mezzo di Ungaretti. Nicola da Milano. Sì, se ancora non è, credo, attiva la nostra voice box, o c'è la voice box, non lo so. Non ancora, per cui dopo ci avrei tutto il tempo del mondo per lasciare i tuoi messaggi, i tuoi monologhi ed essere poi magari invitato in trasmissione. Senti, noi abbiamo ancora 13 minuti, però io voglio far sentire 3 minuti, sì, una cosa che riguarda papà, che riguarda tutti noi, e perché è bello. Ora veramente staccherò la mia voce, che a qualcuno magari può anche non piacere, forse quella di Cristiana sicuramente sì, ma ascoltate attentamente, se non conoscete questo monologo tratto dal Grande Dittatore di Charlie Chaplin, ascoltate, è stata la prima volta che ha parlato, lui era il dittatore molto Hitler, ma tira fuori un discorso che dovrebbe essere in bocca a tutti i grandi leader mondiali. Ascoltiamoci Oreste Nonello, che ha fatto buona la prima come incisione, e questo è il Grande Dittatore. Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile, ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a far le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi irreggimentano, vi condizionano. Vi trattano come bestie! Non vi consegnate a questa gente senza un'anima! Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore! Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! Beh, vabbè. Vabbè. No? Vabbè. Brividi. Brividi grandiosi. Qui, infatti, c'è un nostro amico che ci ascolta, Andrea di Milano, dice: io chiedo umilmente scusa per averlo fatto, ma ho mandato la mia versione di questo capolavoro recitato magistralmente da Oreste Nonello al voice box di 2 mesi fa. Ascoltatela, l'abbiamo ascoltata, per questo non ti abbiamo più richiamato. scherzo Andrea, ovviamente. Anche Enrico da Bosco Reale: la domenica è sinonimo di Voice Anatomy, l'appuntamento fisso degli italiani. Complimenti alla caldissima voce di Cristiana Lionello. Stanotte verso le 4 ho visto una replica della premiata ditta e ho notato che la tua voce è cambiata, adesso è molto più profonda. Perché? Sarà la vecchiaia? No, e sto per radio, lì magari si recitava e uno porta un po' più la voce e parla in questa maniera, qui non c'è bisogno di strillare, allora uno la abbassa ed è tranquillamente. Più movimentandola anche un po', altrimenti... può anche alzarla. Sì, esatto, uno... soltanto che poi diventa, oddio, ma perché strilla questa? tira la palla E allora poi c'è un altro che non capisco, un altro di complimenti e va bene, insomma non si può far finta di niente dopo un monologo del genere. Ma perché questi sono i corsi e ricorsi storici, praticamente stiamo nel 2016 e non è cambiato niente. Niente. Questo dovrebbe essere preso dai nostri politici tanto quanto il monologo di Al Pacino negli spogliatoi di ogni maledetta domenica viene preso in prestito dalle squadre di calcio o di qualsiasi altra persona voglia arrivare a conquistare quel centimetro. Questo dovrebbe essere preso sotto braccio dai nostri leader o da tutti i persone di partito. Penso che politici e dire destra, sinistra, centro non ha un colore. Loro non ascoltano. È un momento di grande confusione, ma questa è un'altra trasmissione, dovremmo dirlo all'amico Cruciani che si arrabbia con la zanzara. Sì. Ah, beh, basta che apri un discorso del genere, ma al minimo un baffa è la prima cosa che te prendi, neanche buongiorno da dove chiama. Perché? No, lo voglio avere, ospite dovrà venire un giorno, deve venire, io sono stato da lui, mi ha massacrato, con dolcezza ma mi ha massacrato, però lo vorrei avere una domenica, se è libero, sarebbe fantastico, perché veramente è bravo, sì, è divertente. Senti, allora salutiamo ovviamente questo monologo, tu stai ancora con noi altri 6-7 minuti, ma anche tu di cose belle e importanti ne hai fatti, e devo dire che la tua voce io non la riconosco quasi mai, e questo credo che sia un pregio per un attore. Sì, è un pregio, perché evidentemente... Molte cose l'ho scoperte qui insieme a Alessia Navarro, che è la capoautrice, il nostro Fabiani Damiano, l'altro autore che saluto, ringrazio come sempre Alessandro, dall'altra parte del vedo, il nostro tecnico del suono, e Gaia, sempre pronta, la nostra capo redattrice, a filtrare telefonate, messaggi. Team pazzesco. No, è bello, perché poi non è una trasmissione facile, sembra facile perché poi tutto è pronto, tutto è a posto. Invece no, ci sono tanti collegamenti, come oggi da Milano, molto importanti, ritroviamo il nostro amico Shade, che è uscito un disco divertentissimo, poi avremo tra poco Franco Fussi, che è un grandissimo medico chirurgo specialista in foniatria, cioè abbiamo un passaggio, e il grandissimo Paolo Poli. Sì, il bambino di ultra novantenni, ma di una freschezza che fa invidia a me e a te messi insieme. Papà l'adorava. Sì, ma come fai a non amare un professionista come Paolo? Che stai facendo adesso, a parte stare seduta qui di fronte a me, ecco, di domenica? Che stai doppiando? Sto dirigendo. Non ci sono. No, sto dirigendo una serie, un thriller, un serial killer. Tu che serie hai fatto importanti? Ce n'ho una nel cuore, che è dove hai doppiato qualsiasi cosa e dove noi come premiata ditta l'abbiamo presa in prestito beautiful, agli inizi. Beautiful. Beautiful. Beautiful. È stato lo startup e lo scarto della nostra carriera, beh, grazie a voi. Beh, Beautiful fa parte della nostra vita. Sì, ormai, sì, sono esattamente dal 1990, te lo dico perché noi lavoravamo con la Carrà 26 anni fa. Al posto di Quando si ama d'estate mandarono questa nuova soap opera, questa nuova fiction, eccetera. Si arrabbiarono moltissimo tutti perché erano innamorati di Quando si ama e disse che doveva andare in sostituzione. Poi invece fu un pazzesco, sì, tuttora va molto bene. Tuttora. Ma lì fu un botto pazzesco. Infatti in America lo girano per l'Europa solo. Sì, sì, infatti qui funziona. E noi prendemmo in giro quel Beautiful lì perché eravamo quattro, i protagonisti erano Thorne, Ridge, Caroline e Brooke. E io facevo Caroline. E tu eri Caroline. La prima moglie di Ridge. Poi hai doppiato di tutti praticamente, strada facendo. Sì, poi si sono sposati fra loro. Morivano, poi suscitavano, poi tornavano come gemelle, poi cambiavi personaggio. Adesso sto facendo un altro personaggio in Beautiful, si chiama Queen, che è cattivissima, una pazza schizzata, ma mi diverte da morire. No, io non l'ho più seguito, l'ho perso dopo i primi anni che lo prendevamo in giro. Non sai mai come parla, dice vabbè, questa dice ciao, la faccio. No, non lo puoi fare perché non sai come lo dici, ma magari faccio per cui non puoi non vederlo. Noi poi facciamo una puntata con quelli veri in televisione. Io l'ho conosciuti, l'abbiamo conosciuti. Ma fu un boato quando vennero in Italia e c'era anche Gorbaciov e veniva a Roma, se ne sono fregati di Gorbaciov, Roma era bloccata perché c'era i Beautiful. Poi io feci una figura. Sai che l'hanno cambiato Ridge? Sì, non sì, è Ridge, il mascellone non è non più, sono troppo figo, non è, no. Che io dissi quella battuta, dove vai in vacanza? Ridge mi disse, la Carrà, disse, gli risposi, vado sull'Oceano Paci. Perché de figo basto io. Era la prima battuta, la gara non la capì, neanche rise. Vabbè, ma non è questo importante. Qui Beautiful, l'altra serie importante che ti ha, sei affezionata, che hai fatto, perché credo che Beautiful sia stata... Beh, ti quella ha caratterizzato. È una soap. Sì, quella poi è una soap. Che ti porta... Sì, ti prende per mano e ti porta in sì, giro. Sì, ti porta per tutto, per tutta sì, la vita. Sono 26 anni che c'è, per sì. Cui... No, ne ho fatte tante di serie, queste qui, 12 puntate a botta, poi ci sono le stagioni. Però purtroppo mi ricordo i nomi. Tu, madonna, ma guarda che mi sei, abbiamo... Ma meno male che abbiamo gli autori. Però adesso sto facendo come Ellen, per esempio, è una serie importante. Ah, Ellen DeGeneres, come no? Lei è un'attrice strepitosa. Che ha presentato anche gli Oscar. Sì. Lei è una, lei è una forte. Donna straordinaria, di una comicità intelligente strepitosa. E, e poi in questo periodo sta combattendo per i diritti, per visto i diritti, che lei ha ammesso sì, sì, sì, sì, la sua omosessualità, sì, lesbica, sì, eccetera, per cui sì, combatte. Averla dominante agli Oscar fu, è stata proprio una bella cosa. Ma, in questi giorni così particolari in piazza, fra Family Day e non Family Day, ma non prendiamo... Adesso non è il posto per cominciare un discorso, anche perché manca un minuto per stare insieme. Non potremmo aprire un'altra diatriba. La faremo quando parleremo di Pupi Avati e Sharon Stone. Nella prossima puntata parleremo anche di questa. No, basta, chiuso. No, ma scherzo, ma per scherzo, carità, ovviamente. Per carità di idea. Cri, ti lascio questi 50 secondi per salutare. Vuoi salutare qualcuno? Non lo facciamo mai per radio. Ovviamente sono sempre gli ascoltatori che chiamano e dicono, si può salutare, mi dedichi. Invece no, facciamolo noi da qui. Sì. A chi vuoi dedicare quello che stai vivendo? Ai tuoi figli, a tuo marito, a papà? A papà. Io ho scritto una lettera a papà. Ah. Ce l'hai? A casa. Ecco. Devi tornare a leggerla però. Ho scritto una sera, presa dalla disperazione più del solito, ho sentito il bisogno di scrivere, di scrivergli. E ho scritto questa lettera. E io spero che lui l'abbia sentita e spero che mi stia accanto sempre. Sì, io comincio a crederci a queste fortissime energie. Poi parleremo anche di questo. La leggerai? Io vorrei che tu lo facessi. Sì, se vuoi. Mi piacerebbe molto, perché vuoi, così rimangono in vita, anche se non se ne sono mai andati. Mai, i nostri cari, parlo tutti cari, sì, non solo i nostri cari famosi, no, anche mia madre, anche mia madre. Tutti quelli che ci lasciano rimangono. E allora questo è un saluto a tutte le persone che ci hanno salutato per un attimo, ma sono sempre vicino a noi. E poi a mia nonna. Ma la nonna, nonna materna o nonna paterna? Paterna. Anche lei vicino a Oreste, per sì. Cui... Allora Cristiana, questo non può che rinnovare l'invito. Però per rivederci insieme. Voglio finire con la gioia. Ma questa è gioia. Questa guarda, è gioia, guarda, però è una gioia terrena, diciamo. Allora racconta una barzelletta zozza. Zozza? No, scherzo. Guarda, dico subito. No. No, volevo salutare Alice. Certo. Che è mia nipote. Eccola. Ciao Alicetta. Che non ti chiama nonna perché tu non vuoi. Lo so, lo so. No, lei mi ci chiama, sono io che non voglio che mi ci chiami. E allora salutiamo nonna Cristiana Lionello. Quando la incontrete chiamate. Svegliate il microfono Alessandro. Grazie Cristiana di essere stata con noi. È una promessa o una minaccia il fatto che io voglio che tu torni qui. Grazie, a tra pochissimo. Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Voice Anatomy è qui per servirvi, signori miei, per accompagnarvi nei meandri della voce, in tutte le sue declinazioni, perché la voce è l'elemento fondamentale di comunicazione di tutto, è la cosa fondamentale. Mi scrive sempre qui un signore che non ce l'ha come, ce l'ha qualche trasmissione, ma io non c'entro niente, dottor Giuseppe Ciampi, deve scrivere da altre parti, io la ascolterei. Per giorni interi, comunque va bene, gli altri fanno i complimenti, salutano la nostra Cristiana Lionello e io a questo punto vado avanti con la trasmissione, eccola qua ed abbiamo, come ho detto poco fa, un grandissimo professionista della Voce, voglio presentarlo e poi ce l'abbiamo in diretta. Lui si chiama Franco Fussi ed è un grandissimo medico chirurgo, specialista in foniatria e otorinolaringoiatria, responsabile del centro audiologico foniatrico dell'azienda ASL di Ravenna. Leggo tutto perché è importante sapere con chi abbiamo a che fare. Responsabile scientifico del corso di alta formazione in vocologia artistica dell'Università di Bologna, docente al corso di laurea di locopedia dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna, e docente al corso specializzazione in audiologia e foniatria dell'Università di Padova. No, questo capite, se uno deve chiedere un consiglio sulla voce, abbiamo questi grandissimi professionisti come l'amico Diego Cossu, che si alterna spesso e volentieri alla nostra trasmissione. Veramente è consulente foniatra del Teatro Comunale di Bologna, ci vuole un blocco per presentarlo, delle Accademie d'Arte Lirica di Osimo, dell'Accademia dell'Opera di Firenze, dell'Accademia Rossiniana di Pesaro, insomma tutti i posti dove la voce deve essere assolutamente salvaguardata. Ed è anche un grandissimo scrittore, in collaborazione magari con delle colleghe, con Silvia Magnani, hanno scritto veramente di tutto sulla voce del cantante. Il voicecraft, ascoltare la voce, la clinica della voce, le parole della scena. Io credo che il dottor Franco Fussi, come l'amico Diego Cossu, dovremmo portarcelo sotto braccio per parecchie puntate, perché ci può accompagnare a livello scientifico nel mondo della voce. Questo mi piace di questa trasmissione. A me personalmente mi manda un SMS perché è divertente, è affascinante e soprattutto anche profonda, e ci insegna anche qualcosa, me compreso ovviamente, sapete perfettamente perché mi riprendete spesso e volentieri, mi aiutate a crescere. E allora, signor Franco Fussi, sei in diretta con noi? Sì, sono qua, buonasera Pino, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera Franco, tu di dove sei? Io sono di Ravenna, sono nato a Pisa ma vivo a Ravenna da ormai 30 anni. Tu hai 31 anni, per cui più o meno, sì, esatto. Dalla voce giovanile, vai a giudicare così, soprattutto un esperto di voce. Mi fa molto piacere, intanto ti ringrazio Franco di aver accettato il nostro invito, ma è giusto far prendere sotto braccio i nostri amici e portarli in questi mondi della voce. E oggi approfondiremo il discorso della voce nella politica, anche la voce artistica toccheremo, ma la voce nella politica è stata una mia fissa degli autori dalla prima puntata, cercare di studiare i nostri leader o capire perché parlano così o cos'ha o come dovrebbero fare per migliorare. Io avrei qualche idea, ma è bello parlarne con un professionista, senza prendere ovviamente, qui non ci sono posizioni di colore politico. Certamente. E allora, caro Franco, partiamo proprio dal primo di questi due aspetti, cioè la voce nella politica. Quali sono i principali criteri di analisi intanto di una voce? Ma intanto la voce politica è in effetti anche una voce artistica, in fondo deve convincerci, no? Ci riesce poco, devo esatto. dire. Ma questo proprio perché ci sono delle caratteristiche della comunicazione che vanno oltre la parola e ne parleremo dopo, insomma sono anche proprio la voce. Come possiamo analizzare queste caratteristiche vocali, i parametri della voce? Con degli strumenti che sono soprattutto la stroboscopia, la laringostroboscopia, che ci permette di visualizzare le nostre corde vocali, quindi valutarne lo stato di salute, e la spettrografia, che è in pratica l'immagine del nostro segnale, quindi la composizione degli armonici, come sono distribuiti, che intensità hanno, se la voce è pulita o è sporca, l'andamento prosodico della voce, cioè come si evolve nel tempo, e quindi un'analisi è una cartina tornasole di quella. Franco, tranquillizziamo i nostri ascoltatori, non è un esame invasivo, no. Raccontato così sembra che ci sia. No, no, la spettrografia è semplicemente la registrazione. Non parla di fantasmi, insomma, no. La spettrografia è una situazione diversa. Registriamo la voce con un microfono e poi la analizziamo, esatto. Ne analizziamo il segnale vedendo su uno schermo la distribuzione appunto della componente degli armonici del suono. Poi c'è anche la fonetografia, che invece è un esame che ci permette di vedere a livello dinamico le capacità dinamiche della voce di una anche persona. Anche questo con un microfono? Anche questo con un microfono, praticamente noi riusciamo a vedere le intensità minime e massime tono per tono, e quindi disegniamo una sorta di campo vocale, il range dinamico di quella persona in quel momento della sua vita. Su un professionista è una cosa straordinaria, insomma. La stroboscopia è un pochino semi-invasiva, nel senso che è semplicemente un endoscopio rigido che viene introdotto nel campo cavo orale per visualizzare le corde vocali, ma insomma se le mani sono esperte non c'è nessun disturbo a livello di per la visualizzazione della corda. Cioè si fa scendere in gola piano piano questa telecamera, oppure questa... Sì, che si ferma poi assolutamente prima dell'ugola, quindi è semplicemente nel cavo orale, non deve andare giù come molti temono. No, no, io parlo così perché poi, vabbè, bastano anche una spruzzatina di qualche medicinale che tranquillizza. Sì, anche se, insomma, comunque, ripeto, è soltanto una questione di compliance del paziente. Ma tu lo sai che noi, i pazienti non sono pazienti, no? C'è l'ansia che ti vedi entrare in questa situazione, allora si stringe immediatamente la gola. Però, insomma, questo esame permette veramente un'analisi accurata a 360 gradi. Sì, sì. In 32 anni non ho mai usato l'anestesia per farlo, quindi. È il numero uno, Franco. Ce n'hai 31 di anni, e questa è la cosa incredibile, ma come abbiamo detto all'inizio. Già sono 32 anni che non uso. Per cui ci sono questi sistemi, proprio per uno studio approfondito, interessantissimo. Credo che pochi professionisti, me compreso, non hanno mai pensato di fare uno studio così profondo sulla propria voce, che invece dovrebbe essere basilare, come molti professionisti, ma io parlo anche di professori, lo diciamo sempre, o di politici, non hanno mai pensato di studiare impostazione vocale, la respirazione e quant'altro. Senti, caro Franco, intanto questa è un'anamnesi tecnico-scientifica e medica per quanto riguarda la voce, ma quali studi ha compiuto nello specifico per l'analisi della voce dei politici? Cioè, quali studi hai compiuto tu? Ma abbiamo estrapolato alcune frasi da alcuni comizi di alcuni politici italiani per valutare appunto quali erano le caratteristiche, l'andamento prosodico e soprattutto in che modo la voce poteva sedurre, perché tutto sommato la parola è stato stabilito che vale soltanto il 7% di quello che viene comunicato con la voce. Solo il 7%? Sì, la voce è il 38% e il rimanente è tutto il corpo, quindi le espressioni facciali, gli atteggiamenti corporali, i movimenti. Per cui la maggior parte, insomma il 60% è il corpo. Esatto. Per questo, in fondo la parola... Nessuno dovrebbe presentarsi su quel pulpito a questo punto, poca gente. No, ma in fondo la parola convince in effetti soprattutto attraverso la voce e attraverso... Certo. Il corpo, anche le inflessioni prosodiche, no? I timbri aspri, timbri un po' sporchi, vengono nell'immaginario collettivo associati a delle emozioni che mostrano eccitazione, gioia, ansia oppure paura, mentre invece al contrario quelle che mantengono poche variazioni e un timbro più caldo con un segnale più pulito, più regolare, come il tuo, sono legate a stati sobri, quindi a calma, sicurezza, eventualmente a tristezza. In fondo la mobilità ha un significato simbolico di destabilizzazione, mentre invece la costanza rassicura. Per cui questa sobrietà che io ho in questo momento, che riesce anche a sentire nella voce. Vogliamo sentire il tuo primo contributo che ci hai portato su Obama, o vogliamo andare subito su Silvio Berlusconi? Andiamo, no, su Obama. Sentiamo Obama. Prego. But it's very hard to figure out where those troops are going to come from if we are sustaining the kinds of troop levels that we have in Iraq. Questo era Obama? Questo era Obama, sì. Abbiamo anche Obama. Abbiamo Obama spurgato da tutta quella che è l'aspetto articolatorio, quindi lo ascoltiamo di nuovo la stessa frase, semplicemente con l'andamento melodico delle vocali. Vediamo. Beh, questa è una cosa pazzesca. Allora, togliendo tutte le consonanti, non abbiamo più le parole, che cosa sentiamo? Sentiamo un tono che è dotato di una certa monotonia, cioè abbastanza ribattuto sulla stessa nota, e finisce le frasi in fase ascendente, con tonalità ascendente, quindi è propositivo, è assertivo, certo, alla fine della frase. Sentiamo invece il suo antagonista, che era McCain. I've got to convince people because of my extensive background on the economy and knowledge. Questa era la frase. Spurghiamola dalle consonanti. Beh, vabbè, io ti amo. E qui c'è qui c'è però... più variabilità, c'è più incertezza, ci sono interruzioni, accelerazioni, è abbastanza così destabilizzante, no? In ma fondo, hai tolto come... tutte le consonanti per sentire, per arrivare a questo suono? Sì, abbiamo tolto tutta la componente consonantica per arrivare ad ascoltare soltanto la melodia, come si evolve la melodia nel tempo. Senti, siamo arrivati alla fine del primo blocco, ma io credo che ti terremo un blocco in più sicuramente, perché è molto, è affascinante, divertente, ma divertente dal punto di vista scientifico. Divertente per me significa affascinante, significa interessante. Per cui resta lì, sì, e noi ci salutiamo per un minuto e mezzo, e torniamo subito con Franco Fussi per questo viaggio avventuroso attraverso la voce. Voice Anatomy. Voice Anatomy, 15:29 primi e adesso è 30, sono le 3:30 e abbiamo il nostro amico, grande professionista della voce, Franco Fussi, tanto per alleggerire un po' tutte le tue specializzazioni. Abbiamo analizzato la voce di Obama e la voce di McCain, a questo punto andiamo all'analisi vocale relativa ad alcuni dei nostri più noti politici come Silvio Berlusconi, vero Franco? Abbiamo questo, sì, in ordine. Sì, sì, però volevo accennare al perché abbiamo fatto questa analisi, per capire anche se nella voce Obama era risultato vincente rispetto a McCain. Esatto. Come abbiamo sentito prima, no? La regolarità con cui si muove la voce di Obama e sì, che è assertiva verso la fine perché sale di tonalità, mentre invece quella di McCain è abbastanza incontrollata, è praticamente nell'andamento melodico un po' contraddice quello che sta dicendo e quindi risulta assolutamente meno convincente. Che cosa succede nel politico? Il politico come strategie per convincere ha due formule che sono iniziare il discorso con un tono pacato ma fermo. La monotonia in fondo induce uno stato ipnotico che è quello che permette di veicolare il messaggio, quindi di farci capire il messaggio e di convincerci del messaggio, mentre poi però in una seconda fase c'è invece un'esortazione che è legata all'elevazione della frequenza fondamentale, quindi cominciano a parlare più forte con attacchi più decisi perché devono esaltare il messaggio, portare all'incitazione la decisionalità e il loro vestibolo è costretto, le corde vocali sono molto in contatto fra di loro e quindi ci convincono a partire, a muoverci, a essere operativi. È la stessa cosa che se paragoniamo ad Enoide Hinkel, quel personaggio che Charlie Chaplin faceva nel grande dittatore. E ascoltiamo il suo comizio e poi ascoltiamo un comizio, ahimè, di Hitler, la modalità è esattamente la stessa. Si parte con un tono, sì, pacato, l'ipnosi, arriva il messaggio e poi l'esortazione, ci muoviamo a portare le persone a muoversi, a preferirei il monologo di Braveheart o quello del Signore degli Anelli a spingerci a combattere in un altro modo, visto che poi ho aperto la trasmissione anche raccontando la strage dei nativi americani che poi è stata presa in prestito proprio come modalità poi nel futuro purtroppo per sconfiggere altri tipi di popolazioni. E arriviamo così al nostro Silvio Berlusconi. Allora ascoltiamo, anche qui abbiamo senza consonanti. No, qui abbiamo soltanto un andamento della sua. Ci sto prendendo gusto, Franco. Ascoltiamolo, Silvio Berlusconi. Caro Bersani, o accettate di dialogare con noi, di scegliere con noi il capo dello Stato e di formare con noi il nuovo governo, oppure l'interesse del Paese e la gravità della situazione esigono che si torni subito al voto. Ecco, allora qual è l'aspetto che maggiormente caratterizza la voce del cavaliere o l'ex cavaliere? Intanto la sua frequenza fondamentale è abbastanza alta e vedremo, sì, poi se lo ascoltiamo è anche simile a quella di Renzi, tutte e due sono inferiori però a quella di Grillo, quindi lui è più acuto comunque. Grillo è il più acuto di tutti, è il più acuto di tutti perché ovviamente vedremo poi che è solo arrabbiato, quindi lui incita, sì, solo, il messaggio non c'è ma lui incita, sì. Non c'è il messaggio nel senso che non ha non lo trasferisce attraverso l'elemento pacato, diciamo. E Berlusconi mostra quindi questi movimenti di innalzamento della frequenza fondamentale, ha una insiste in particolare in maniera anche ipercinetica, cioè costringendo la gola, sì, su delle parole chiave, però sempre mantenendo una prosodia prevalentemente dal timbro caldo, quindi un'attitudine ad avere una certa, noi la chiamiamo portanza vocale, cioè tende a proiettare come farebbe un cantante, sì, un attore la voce. Esatto, un attore, forse per i suoi trascorsi di crooner probabilmente. È vero, di cantante. No. Ma, e poi lì a quel punto non è importante anche l'inflessione del dialetto, cioè il fatto che si senta che Berlusconi sia un uomo del nord, senza nulla togliere al resto dell'Italia, ovviamente. Quello non limita, se vuoi, un'espressione vocale, un'esortazione. Ma non è importante? No, è importante da un lato, ma anche una controparte dall'altro, nel senso che si propone anche con il dialetto ovviamente del nord, quindi il dialetto manageriale, certo, si propone sempre con il manager di successo che tutti vorremmo essere, che è il primo impatto che ci arriva. Poi però gli aspetti su cui diventa debole è proprio l'esasperazione con cui appare il manager che tutti vorremmo essere, quindi il diventare un po' un'immagine di se stesso, che nel tempo diventa sempre meno credibile alla fine. Infatti questi sono gli aspetti in cui vocalmente più debole, insomma, sì. E come si sopperisce a tali mancanze, se ve ne sono, insomma, come potrebbe... Ma forse essere un po' più se stessi, ma per il politico è sempre molto difficile. Sì, ognuno, anche per un attore, fare se stesso in scena è, esatto, difficile. Se tu sei un certo tipo di tipologia di uomo nella vita, è più difficile ridisegnarti all'interno di una fiction, è come se tu avessi, infatti, una sorta di inibizione nei confronti di te stesso. E allora da lì andiamo, l'hai nominato poco fa, su Beppe Grillo, se non sbaglio, vero? Questo è un percorso che ci hai disegnato tu insieme. Sì, e il livello di frequenza di Grillo, diciamo prima, è piuttosto elevato. Lui parla sui 280 Hz, quasi praticamente una voce come frequenza quasi femminile. Ecco, Beppe Grillo chiama. Nello spettro vocale ci sono tante aree di rumore, proprio perché lui grida, perché ha un andamento caratterizzato da costrizioni della laringe, break vocali, cioè interruzioni di suono, a volte scivolamenti in falsetto. È il tipico del grido di disdegno di chi è arrabbiato. Ascoltiamo? Sì, sì, sì. Ascoltiamolo. Un impasto unico. Ma cosa significa? Vanno al governo tra loro? Si fanno il governo tra loro? Questo qui lascia il suo piano di stabilità, il suo patto di stabilità, lo lascia lì e dice: qualsiasi governo venga dopo di me, il programma c'è già. Ecco, c'è molta ansia, c'è molta fiato, e poi le corde vocali si toccano tantissimo, sembra che ci abbia un nodulo sulle corde vocali. Sì, sì, c'è un eccesso. Non voglio fare un'anamnesi medico-scientifica, ma quel fatto che passi molta aria presuppone il fatto che abbia strillato tanto, sì, e magari c'è un affaticamento che la gente lo sente come ansia. Sì, sì, perché poi chi cavalca una protesta genera sempre la percezione della rabbia, e questo nell'immaginario collettivo viene fornito ovviamente da una voce sporca e pressata, che è sentita, certo, come elemento molto virile, come invece per esempio il soffiato è un elemento femminile, come sanno bene i trans. Certo, abbiamo avuto infatti Diego Cossu che opera, certo, da questo punto di vista, perché la difficoltà di un trans è proprio poi essere donna totalmente. Veramente. Lui ci ha portato degli esempi dopo l'operazione che veramente straordinari. E insomma, ma secondo te la sua vocalità ha una qualche correlazione col background artistico di Beppe Grillo? Sicuramente sì, essendo stata sempre la sua comicità in fondo venata da onde di denuncia, polemica e indignazione, no? Era il suo modo anche di essere comico, un modo personale che, sì, si trasferisce anche con lì delle... era molto arrabbiato, sembrava, e glielo deve, sì, dire, sì, sì, e glielo, infatti, deve dire, è sempre... Sì, sempre l'esasperazione, e qui trasferisce con finalità diverse ovviamente la modalità dal cabaret alla politica, insomma. Sì, arrivano dei messaggi molto belli per quanto riguarda il tuo lavoro, a parte i complimenti di avere un esperto di questo tipo affascinante. Gabri ci dice: fantastico questo esperto, ha scritto qualche libro, ho evitato di dirteli tutti, ma guarda, se vuoi te ne leggo alcuni. Allora, intanto curatore della rubrica I misteri della voce per la rivista L'Opera, e ha pubblicato qui numerosi articoli sulla fisiopatologia della voce, cantate, riviste scientifiche e musicali, ed è autore di testi tra cui La parola e il canto, edizioni Piccinne di Padova, Dizionario di linguistica di Inaudi, L'arte vocale con Silvia Magnani, le voci di Puccini, lo spartito locopedico e della collana La Voce del Cantante, edizione Omega Torino, il trattamento delle disfonie, una prospettiva per il metodo Estil Voicecraft, ascoltare La Voce sempre con Silvia Magnani, Franco Angeli Editori, Clinica della Voce, signori, insomma, le parole della scena. Ma insomma, sono particolarmente legato alla collana della Voce del Cantante, 10 volumi, che perché raccolgono praticamente 10 volumi. Sì, perché raccoglie praticamente ogni anno gli atti del convegno La Voce Artistica che Franco, si per fa aiutare Ravenna. I nostri ascoltatori, anche me e tutti quelli che vogliono mettersi in contatto con te, hai un sito di riferimento? È il sito del convegno, che è www.voceartistica.it. Ecco, allora lì Voce c'è tutto artistica. Anche la tua storia, la tua bibliografia, soprattutto. Sì, ci sono anche scaricabili articoli e filmati e lezioni. Per cui www.lavoceartistica.it. Voce artistica, senza la. Voceartistica.it. Ci siamo allontanati un po' da Beppe Grillo anche per continuare questo viaggio insieme a te. Altri complimenti ti arrivano dai nostri messaggi. C'è sempre il dottor Giuseppe Ciampi che ce l'ha con qualcuno e qui non ce l'ha con me, è arrabbiatissimo, ma mi sta riempendo il computer di messaggi. Va bene, non so se sta sentendo delle repliche da qualche altra parte, vabbè, ma non è importante questo. Continuiamo a questo percorso dei nostri politici e dopo Beppe Grillo. Ma secondo te influenza positivamente o negativamente nelle folle, Beppe, con questa rabbia? Ma spinge all'azione sicuramente, però poi dopo un po' uno si accorge che non è arrivato il messaggio, perché appunto manca l'ipnosi attraverso cui viene lanciato il contenuto. Manca quel 7% delle sì, parole. Mancano le parole. Sarebbe bello levare anche qui le consonanti. Devi farlo la prossima puntata perché verrai. Togli anche le mie. Dopo Beppe Grillo abbiamo Mario Monti. Vogliamo prima ascoltarlo, il nostro maestro delle tasse, e poi facciamo un'analisi. Grazie a lui siamo tutti un po' più poveri. Bene. Va bene, ascoltiamo Mario Monti. L'Italia ha bisogno di riforme radicali. Di riforme radicali nei confronti di coloro che sono al di fuori dei fortini protetti dei privilegi, delle corporazioni, delle rendite, di coloro che sono giovani. Ecco, l'applauso era facile, insomma, è scorgato spontaneo. L'Italia ha bisogno di questa cosa. Beh, certo. Senti, in lui qual è invece l'aspetto che vocalmente prevale durante un discorso? Ma nella voce di Mario Monti ci sono allora questi armonici, i primi armonici che sono piuttosto intensi, quindi al 22% il timbro è caldo. Ed sì, è l'unico che mantiene una frequenza fondamentale nei limiti del parlato colloquiale, come se stesse parlando a tu per tu, quindi un 120 Hz. Anche durante il comizio, non vuole convincere per esortazione. Da dove parte la voce? Io lo so, ma per spiegare ai nostri amici, insomma, prima diciamo Beppe Grillo sta intorno ai 220 Hz, quasi una voce sì, più o meno femminile. 280. Anche. 280 secondo addirittura. I picchi. Da dove si parte per una voce bassa? Allora, una voce maschile di solito è nella voce di conversazione varia da 80 a 150 Hz, la voce femminile da 160 a 250. Quindi si sente quando ci strillano. Quando strilliamo abbiamo ovviamente una terza, una quinta sopra in genere, quindi certo, sicuramente più alto. Invece le donne già partono strillando, cioè praticamente è questo, insomma, già c'hanno quegli erze che ti dicono vai, vai, questa, allora, ecco, cioè, ovviamente già c'è un ordine arrabbiato che le donne non mi vogliono, speriamo non mi attacchino. Allora, quindi, questa, Mario Monti, l'utilizzo di una voce caratterizzata da una spiccata monotonia, quali effetti e quali sensazioni produce nell'animo di chi ascolta? Cioè, perché poi questa sembra un po' monotona, quella del infatti, anche se è calda. È molto ipnotica, però è priva dei caratteri di elevazione, di intensità e di frequenza che sono proprio dello sprone, che è normalmente presente nell'arte del convincimento, per cui ci fa capire il contenuto, ma emozionalmente non siamo dalla sua parte. Qui mi dicono Beppe Grillo ha sempre trasmesso fiducia, energia, positività, coraggio di fare e cambiare. È l'italiano che è troppo tradizionalista e attaccato a vecchi schemi e sistemi. Sì, sempre all'orticello. Noi siamo per il nostro orticello, per mamma e quant'altro, ma non vogliamo fare qui un'analisi politica. Vogliamo, no, ma infatti è soltanto un'analisi dell'andamento della voce. Dell'andamento della voce che poi ti fa capire tante cose, perché poi la programmazione neurolinguistica ci aiuta a capire che cosa sta dicendo, perché lo sta dicendo, se è vero, se è falso, se è ironico, se è arrabbiato. Ma questo è proprio uno studio medico scientifico della voce è molto, ma veramente molto interessante. Senti, proprio per questo abbiamo deciso di tenerti un blocco in più. Tu devi operare qualcuno, devi parlare con qualcuno, devi ascoltare qualcuno, c'hai un quarto d'ora in più? No, rispetto all'orario che ci siamo detti. Mi fermo volentieri. Benissimo, e allora continuiamo con te questo bellissimo percorso. Per cui, prima di avventurarci al contributo, siccome fra pochissimi secondi andiamo in pubblicità, se non sbaglio, ovvero Alessandro, non voglio aprire Matteo Renzi e concludere in 30 secondi, perché altrimenti ci possono incolpare. Avete dato più tempo a Berlusconi e meno a Renzi, oppure più a Beppe Grillo, eccetera. Per cui ti saluto adesso per pochissimi secondi anche a te, e torniamo studiando, cercando di capire anche Matteo Renzi su quale Hertz si muove. A tra pochissimo con il nostro amico Franco Fussi e con Voice Anatomy. A tra poco. Voice Anatomy. Caro Fussi, non so come parlare con te, che tipo di Hertz utilizzare, ho paura di essere analizzato. Vai, sai, tranquillo. Come quando uno è esperto di comunicazione non verbale, quello dall'altra parte non sa più come mettere le mani, gli occhi, le braccia, le spalle, e comincia a crearsi dei problemi. Stiamo facendo questo bellissimo percorso sulla voce politica e abbiamo analizzato all'inizio, siamo partiti oltreoceano con Obama, con McCain, con questa particolarità di togliere le consonanti e studiare l'andamento delle vocali, e poi siamo arrivati al nostro Berlusconi, al nostro Beppe Grillo, a Mario Monti. Qui ancora messaggi praticamente molti 5 stelle: Beppe tiene sveglia la folla, Mario Monti è monotono. Sì, l'abbiamo detto. Che ci vorrebbe, poi chiederemo a Franco di fare una sorta di mix fra tutti questi e vedere qual è il politico perfetto, unire le voci e capire qual è il politico perfetto. Siamo arrivati, ideale, sì. Siamo arrivati al Matteo Renzi, ce lo ascoltiamo e poi analizziamo, vero? Sì, cioè analizzi, bene. Scusa bene, se bene, ho fatto bene. Questo no, certo, plurale. Facciamo insieme. E allora ascoltiamo Matteo Renzi. Guardate, io sono un sindaco che nella sua città ha abbassato le tasse. Io ho dimezzato gli assessori, andavo in televisione a Ballarò a dire si dimezzano i parlamentari, come primo atto ho dovuto dimezzare gli assessori, che non hanno gradito moltissimo, però adesso abbiamo metà degli assessori di prima. Ecco, ci lascia così, con metà sì, degli assessori di prima. È un po' altalenante, no? Lo sentite? C'è una certa incertezza sul come far leva, cioè è una comunicazione un po' incoerente e che si caratterizza per questi attacchi vocali spesso a frequenza acuta, delle rapide elevazioni in acuto, sembra quasi che vada in falsetto, e poi dopo ha dei rallentamenti repentini. Anche i suoi hertz sono molto sul femminile. Sono sì, sono piuttosto elevati. Assolutamente. Poco più di decidendo Berlusconi. La sessualità di un uomo. No, certo. Ma stiamo decidendo soltanto i suoi hertz. No, no, è diciamo, più alto di Berlusconi? Berlusconi e lui sono medio alti, tutti e due. Il più alto è Grillo e il più basso, abbiamo ascoltato prima, è Monti. È più basso. Sono tutti inversamente proporzionali alla percentuale dell'IVA. Dell'IVA. Perché lui è basso, ma l'IVA è alta. L'altro è alto e vuole togliere. Insomma, dobbiamo decidere anche da quello di chi fidarci. Insomma, quindi, dimmi. No, dicevo, questo andamento di Renzi è un po' altalenante, no? Come se ci fosse una comunicazione un po' schizofrenica, cioè nel senso sì, che a volte è seriosa e aggrotta le ciglia, infatti, e fa più spazio anche nell'orofaringe, accentuando il sigmatismo, perché deve essere più serio. A volte invece incita a essere operativi, allora lancia la battuta, vuole essere spiritoso, gli compare quel sorrisino che Crozza sa ben imitare. Quello dice, okay, c'è questa dualità, insomma, l'esortazione c'è, è accompagnata da una postura a volte da combattente, sempre col capo esteso, ci esorta su un contenuto però di cui non ci ha dato vocalmente molta sicurezza, perché alla fine ci muoviamo sicuramente, per ma cui non destabilizza, sappiamo, insomma, questa destabilizza, però comunque ci fa muovere, ma non sappiamo bene perché. Non sappiamo. andiamo bene, no, non è male. Dovremmo fare una seduta prima delle prossime elezioni con questi politici, ma per giudicarli soltanto a livello dello spettro vocale, non dello spettro di che cosa ci aspetterà. Sarebbe affascinante proprio Senti, per cui la dualità tra esortazione e rassicurazione, quali effetti produce nell'ascoltatore? Insomma, siamo un po' indecisi a quel punto, se seguirlo o quanto seguirlo. Sì, come ripeto, c'è l'esortazione, ci muoviamo, però magari il contenuto non c'è, non l'abbiamo assimilato molto bene, quindi non sappiamo benissimo il perché. Poi facciamo. Qui ci dicono: Matteo Renzi ha una voce convincente, sì, ma sì, perde la voce facilmente. Ok. La usa male, quasi tutti la usano. Cioè, questi intervalli molto ampi, per cui c'è molta presaggio sulle corde, sicuramente tende a dimizzarsi, quindi a crearsi dei danni magari transitori legati allo sforzo. Eh sì, poi i traumi sono facilissimi sulle corde vocali, basta uno strillo fatto male come allo stadio, il gol Chiaro. Inaspettato di portare il giorno dopo già stare in questa maniera, che insomma non è per quanto, infatti io sto molto attento, a parte la mia squadra segna pochissimo per cui evito di urulare allo stadio, poi sto la domenica, sono tranquillo, qui non sono neanche risultati, ecco il mio tecnico di fiducia mi dice 0-0, per cui siamo tranquilli. Okay. Siamo tranquilli. Un altro, forse è ansioso quando parla e non respira con la pancia, qui parla di diaframma, insomma, e lui di pancia ne ha in abbondanza addirittura. Ma chi sei, il suo dietista, dietologo? No, come di mano? Non mi sembra uno panciuto. Non respira con la pancia vuole dire col diaframma. Col diaframma, che sì, per le donne è una cosa un po' più naturale, per noi maschietti è un po' più difficile, se mi confermi. Sì, questo... ma si apprende la respirazione. Sì, sì, sì, infatti la prima cosa da insegnare e da imparare per usare bene la voce è imparare come si respira. Esatto. Che è fondamentale. È gli una artisti. Cosa è importante, perché anche per noi quando c'è da gridare, io per esempio l'ultimo film che ho doppiato, che è The Revenant, questo Redivivo, sì, con sì, Leonardo DiCaprio. Lì c'hai da urlare. No, è una cosa pazzesca, cioè tu non puoi capire, anche perché devi urlare, stai 30 gradi sotto zero, non tu in sala, ma deve uscire una voce di una persona che sta a 30 gradi sotto zero, per cui le corde vocali sono praticamente attaccate e l'urlo più tranquillo, la cosa più tranquilla che ho detto, io facevo il buono, il capitano, perché poi c'è DiCaprio, c'è il cattivissimo e c'è la via di mezzo fra i due, il capitano di questa spedizione pazzesca, la cosa più tranquilla che ho detto è stata Fitzgerald! È stata la cosa più tranquilla. Ovviamente lì, se non supporti con un buon sostegno respiratorio l'aumento di ampiezza delle corde vocali, e lo fai spingendo sulla corda invece che usando le cavità di risonanza, esatto, si sforzi. E no, no, basta un grido così alle 9 di mattina e sei finito. Certo. Butti proprio tutto, non solo, perché una persona che si alza con un po' di raucedine non c'è problema, ci alziamo noi con un po' di raucedine, tu lo sai, un cantante eccetera, è finita, perché devi proteggere le corde vocali, che sono proprio, quanti millimetri sono? 2-3 millimetri le corde no, vocali. La lunghezza varia dai 14 millimetri della donna, scusami, ai 23-24 sì, dell'uomo. Sì, diciamo, volevo dire 30, ho detto 3, ma sì, sì, sì, per cui sì, benissimo. Allora, faccio delle domande anch'io, perché sono affascinato, assolutamente invaghito di questo mentire. No, sono io che vive con il cane. Ah, c'è un'altra ragazza che ha un segugio che si chiama Pino, che segue sempre la trasmissione. Io non so se mi vuole accomunare al cane come attore, ma io credo che sia soltanto una cosa affettuosa. Silvio Berlusconi ha una voce piacevole e allegra, Renzi parla veloce ma trasmette ansia, Obama ha una voce sexy come te, caro Pino. Certo, io Obama, se mi faccio 2-3 lampade, anch'io ho la voce sexy come lui, come era il grande Martin Luther King. Che bello quel discorso, voglio mandarlo, una puntata o l'altra voglio mandare quello I Have a Dream, che è fantastico, che è veramente una cosa meravigliosa. Dunque, fra poco andiamo in pubblicità. Fra quanto, Alessandro? Perché non voglio, ecco, abbiamo ancora 4 minuti per poi farci ancora un altro po' di passeggiata con il nostro amico Franco, anche magari approdando alla voce artistica, introducendola magari, che abbiamo soltanto un altro blocco, per poi strapparti la promessa di essere di nuovo nostro ospite, se puoi, Franco. Va bene. Va bene. E allora, dopo Matteo Renzi, andiamo su un classico, andiamo su Pierluigi Bersani, insomma, non potevamo mancare questo appuntamento, anche se mi sarebbe piaciuto magari la prossima volta sentirci quelli di una volta, cioè i Berlinguer, gli Almirante, i Craxi, che credo che erano un po' più preparati, forse erano un po' più attenti dal punto di vista vocale, oppure erano dotati di grandissima personalità naturale. Erano un po' i pater famiglie, infatti la prosodia poi di Bersani si dipana sottolineando quelle che sono le parole significative con dei portamenti della voce, no? Queste salite, discese tonali. Allora lo ascoltiamo prima, Pierluigi Bersani. Giusto, sì, sì. Dobbiamo ascoltarlo. Sì, sì. Prego, Alessandro. Cambiare parole sono capaci tutti, ma quando si comincerà a vedere i nostri gruppi parlamentari, ci sarà, come dire, lo sguardo delle telecamere sui nostri gruppi parlamentari, si vedrà che noi abbiamo un rinnovamento del 70, dei due terzi dei gruppi parlamentari. Ecco, è un po' come il papà che fa la ramanzina, no? Che insomma sottolinea salite discese tonali strisciando tra due toni, trasmette quindi dei sentimenti di indignazione con un timbro caldo che incline appunto alla familiarità e certo. La se frequenza media stasera tardi te gonfio le botte. Esatto. Cioè c'è molta tranquillità anche, nel, anche nella frequenza, anche nella ringa non ha una frequenza media molto alta, lui è più bassa di Renzi e di Berlusconi. Sì, quello sì, non bassa come Monti è ancora più basso. Il suo ondeggiare magari non contribuisce a generare troppa sicurezza e troppo senso di propositività, però è in pratica quello che deve convincere con affetto. Allora, che dice qui? Perché non fate parlare Mortadella? Sembra un prete che legge il sermone in chiesa. Chi è Mortadella? Ah, Prodi, ma dico scusa, ma dai, meno male che c'ho Alessandro, che dall'altra parte c'ha le intuizioni, i nostri Alessia Navarro e Fabiani Damiano mi guardavano con un'aria Mortadella. Io avevo un amico che era uno dei capi della curva sud, nonostante io faccia parte dell'altra curva, che poi siamo amici, ovviamente che non c'è più, era Mortadella, ho pensato a lui, ma dico, ma perché Mortadella, che è un tifoso della Roma? E invece no, sembra un prete che legge, è vero, sì. È che Prodi sembra più un, sì, perché un c'è vecchio curato di paese ipoarticolante, sì. Che sembra appunto quello della comunicazione nel confessionale, insomma. sì, anche l'amico, il salumiere amico, sì. Perché parlava poi insomma l'Emiliano, lui è emiliano, no? Se non sbaglio, non voglio romagnolo, sì, bolognese, non voglio sbagliare fra Emilia e Romagna. Bologna-Emilia. Certo, lo so, sai quanto uno si arrabbia. Io sono romagnolo. Tu sei romagnolo, l'altro è emiliano. Bello questa unione, di questa nazione unita, che a 2 chilometri, anche esatto. I dirimpettai già siamo sul piede di guerra. Senti, per cui fra tutte queste vocalità analizzate, quale possiamo affermare essere la più efficace a livello comunicativo e quale invece quella caratterizzata da maggiori lacune, secondo te? Quindi, riassumendo, il livello di frequenza che abbiamo detto in Grillo essere più alto, accompagnato anche al rumore che lui mette nella voce, ne fanno un comunicatore più sbilanciato verso quella che è la componente di esortazione del messaggio. Mentre invece al lato opposto abbiamo Monti che, essendo invece al contrario, su toni più pacati, molto ipnotici, monotonici, si sbilancia appunto più sulla componente ipnotica di convincimento del messaggio. Renzi si caratterizza per una maniera dove i due elementi si mischiano un po', anche se in maniera un po' imprevedibile, quindi rischiano di destabilizzare la coerenza dell'ascolto, e il bilanciamento migliore alla fine come presenza e successione delle due modalità è quello di Berlusconi alla fine. Hai visto? Dici perché uno poi ha retto così, infatti, tanto riusciva, probabilmente avrà contribuito, di niente, vabbè. Poi analizzeremo. Allora, adesso finisce questo blocco, ma rimarremo con te ancora un altro po' per raccontarci un po' della voce artistica e per poi risentirci assolutamente. Ci scrivono: bella trasmissione, bene la voce, ma i congiuntivi, Pino? Credo che fossero, va bene, ti chiedo scusa, credo che fossero passati alcuni minuti. Allora, a tra pochissimo con il nostro amico per concludere questo percorso e poi altri ospiti. A tra poco con Voice Anatomy. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Questa era una pausa di routine con tutte le notizie, la pubblicità un po' più lunga delle altre. Il nostro amico è sempre con noi, Franco. Sono ci qua. Sei il nostro esperto. Ovviamente continuano i messaggi nell'analizzare le voci insieme a noi, di Grillo arrabbiato, il top dei top, una voce graffiata, Silvio Berlusconi anche simpatico, sense of humor. Ci dicono anche sulla tua voce, i nostri attento che sono a te. Io poi leggo tutto perché è giusto sottolineare come quella persona che aveva degli effetti di digestione durante la mia trasmissione, però continuo a sentirla, mi fa piacere. Dall'ascolto della voce dell'esperto non si evidenziano molte emozioni, peccato. Sembra un po' fredda nell'analizzare le voci. Beh, ma è un esperto, cioè Franco non deve cantare, non deve... Beh. Comunicare no, ma nessun tipo di quando imposta. Facciamo gli stage, poi canto, poi imito, certo. Poi faccio gli esempi, quindi dipende. Beh, allora vieni qui magari... perdonami Franco, vieni qui in diretta. Esatto, non avendoti non avendo un interlocutore di fronte è più difficile, no? Sì, esatto, e poi insomma non ti potevo chiedere subito di cantare una canzone come esperto no. O raccontarci una barzelletta, no. Ma Franco è un essere umano con tutte le sfaccettature, chiaro. Adesso giustamente, come deve fare un analista, deve analizzare oggettivamente un dato senza esporre delle emozioni personali che vanno poi a sovrapporsi a quelle originali, per cui è giusto che una persona... così la racconti in maniera sembra asettica, ma no, no, più che altro poi parlando così. Di politica, se non altro disincantata, no? Come vedete il senso dello humor si evidenzia anche nel nostro amico Franco. Senti, io spero tu riesca veramente ad essere ancora con noi, sembra che sei qui perché sei in diretta dagli studi, per cui è come averti al fianco, certo. Non è una telefonica, però mi piacerebbe averti vicino, perché è vero, poi uno si stimola a vicenda. Abbiamo fatto questo percorso nell'analisi dei politici che può essere anche aumentato la prossima volta studiando anche altri esempi magari del passato, qualcuno che si sta affacciando, pochi devo dire sul panorama politico, ci sono pochissime novità, e invece parliamo anche un po' della voce artistica, anche questa è importante. Che cosa si intende, Franco, per voce artistica? È una qualità innata oppure chiunque attraverso allenamento può acquisire? Ma la voce artistica è praticamente la voce professionale applicata all'arte vocale, quindi al canto, alla recitazione, ed è un po' il mio cavallo di battaglia, nel senso che è da 30 anni che mi occupo di artisti e di cantanti. E che cos'è la voce artistica? Si apprende o è invece innata nel soggetto, come mi dicevi? L'uno e l'altro, nel senso che da un lato abbiamo le persone col talento, che è il famoso X Factor, quindi con quel qualche cosa che ho da dire che ti fa emergere rispetto ad altri e quindi ti fa avere successo subito, le doti di interprete in qualche modo, però poi se queste doti di interprete non sono supportate da una capacità tecnica, cioè un sapere come risolvere i problemi, come migliorare la tecnica, come apprendere anche altre sfaccettature non ancora conosciute della propria voce, finisco poi con il crearmi dei problemi, dei danni. Non soltanto acquisisco dei difetti, ma perdo anche quelle che sono le mie capacità principali. Io lo dico sempre, questo è un mestiere fatto seriamente che non finisci mai di imparare, non finisci mai di studiare, perché offre veramente molte, molte, molte possibilità, e poi c'è grandi innovazioni intorno alla voce. Tu sei un esempio di questi. Chi usa la voce artistica in fondo è come un atleta, no? E lo possiamo paragonare allo sportivo in fondo, in quanto sono comunque muscoli che usiamo, e il coordinamento muscolare è importante per avere il massimo dell'efficienza col minimo della spesa, quindi la massima resa col minimo sforzo. Studiare tutte le cavità che abbiamo all'interno del nostro corpo, della faccia. Abbiamo fatto una puntata bellissima su Demetrio Stratos, sì? Che è proprio diafonia, trifonia. Le multifonie, quindi la capacità di fare armonici, di rinforzare specifici armonici dello spettro col canto armonico. Ci sono moltissime modalità, no? E poi ci sono degli esercizi come nella ginnastica per rafforzare, sì. Rinforzare le corde vocali, ma anche quello poi troveremo il modo di fare queste tipologie di ginnastica, anche di fare dei tutorial radiofonici anche per far allenare le persone. Sarebbe divertente fare dei piccole pillole settimanali nella trasmissione, dove insegniamo qualcosa alle persone che poi tutti hanno a che fare con gli altri. Sì. È vero, non soltanto il politico, ma anche il professore, sì, sì, ma anche l'alunno stesso. Ma anche la barista della discoteca, certo, che deve comunque parlare su un rumore assordante ad essere convincente col suo pubblico. Esatto, lì devi portarla la voce, tirarla su, spingere, esatto, col diaframma, metterla in maschera, altrimenti le corde vocali si distruggono. Quindi, come vedete, abbiamo molti stili canori, differenti stili canori, non solo canori e vocali, e quelli canori ovviamente implicano il movimento di alcuni muscoli e non di altri, quindi abbiamo modalità diverse di gestione della respirazione, delle cavità di risonanza, dei registri. Proprio, mamma mia. Il cantante lirico deve cantare in acustico, quindi deve proiettare la voce, allora lui ha un sistema attraverso cui rinforza determinati armonici che permettono di superare il rumore dell'orchestra in distanza e attraverso l'impostazione del canto lirico, altrimenti se nel 600 ci fossero stati i microfoni non sarebbe mai nato quel tipo di canto, perché ci sarebbe stata l'amplificazione microfonica, certo, a trasportare il suono in distanza. E come adesso, insomma, se tu dovevi sentirmi dove stavi o la gente dove stava a casa, dovevi ovviamente affacciarmi alla fare belting, e fare la modalità del belting, che è il belting. Carmali, vieni qua! Con un tipo di emissione con un tipo di emissione dove proietti e porti la voce in distanza senza cercare di dare troppa pressione sulle corde. E questa era proprio il telefono senza fili che si utilizzava e si utilizza magari nei quartieri, esatto, tra le comari che devono chiamarsi da una finestra all'altra del cortile. Mia madre era cortile, fortissima nel belting quando ero piccolo, per farmi tornare a casa che era pronto, perché non c'erano né telefonini né tantomeno uno poteva fare le scale. Infatti non l'hanno inventata gli americani il belting, l'hanno inventato i napoletani. I napoletani sicuramente. Le mamme napoletane. Esatto, le mamme sicuramente, napoletane in primis e poi quello, Pino, è pronto! Esatto. Perché altrimenti facciamo, Pino, è pronto, ecco. Se c'era un microfono si poteva sentire dalle finestre. Io ricordo il grido di mia madre, come le madri, gli altri, e eravamo tre Pini in quel quartiere, per cui... Poi la voce nel belting, come si chiama, si assomigliano un po' tutte quelle delle donne, perché era Pino, è pronto, mo quale? Pino era? Noi, per non sbagliarci, perché dopo due schiaffoni o la cucchiarella, che andava molto di moda negli anni 70, uno tornava a casa direttamente e andava avanti. Senti, quali sono gli aspetti ai quali un cantante deve prestare maggiore attenzione? Ma mettiamo nel piatto della bilancia due elementi, che sono il surmenage e il malmenage, cioè il sovraccarico d'uso vocale e il cattivo uso. Ovviamente il cattivo uso lo miglioro attraverso la tecnica, attraverso la riabilitazione, attraverso l'educatore vocale, il logopedista, mentre invece la quota di uso vocale dipende molto da che cosa devo fare della mia voce durante il giorno. Quindi saper dosare, pianificare gli impegni vocali e evitare di andare in sovraccarico, soprattutto in... È come uno sportivo proprio, sì, uguale. Sì, sì. Evitare gli abusi di farmaci, perché a volte ci sono le persone, sì, molto dotate, che hanno un bellissimo timbro e che però, eccetera, vanno avanti col cortisonico, perché magari alcuni aspetti tecnici non li hanno approfonditi più di tanto, e dopo un po' incominciano magari ad avere, con l'abuso di cortisone, problemi di pressione o il diabete, eccetera. Ci sono un paio di persone, due o tre, che scrivono, dai, facciamo gli esercizi. Mi ricordo quando andavo dalla logopedista perché ero diventata afona. Anch'io ero afono, eccetera. Ok, faremo questa trasmissione a distanza. Medicina 34 lo chiameremo. No, ma è importante, può essere un tutorial, come la dizione può essere veramente affascinante. Senti, l'ultima domanda prima di salutarti, perché non c'è altro tempo: essere stonati deriva unicamente da una mancanza di allenamento, oppure vi sono proprio componenti fisiche che possono determinare questa condizione? Dunque, la stonatura si definisce tecnicamente amusia, cioè mancanza di musicalità, appunto. Mia moglie è a musica. E quindi esistono quattro tipi, nel senso che c'è quello di recezione e quello di produzione, cioè c'è quello che non riesce a decodificare una melodia da un'altra, quindi non capisce proprio dalla melodia che canzone è, ecco. Quindi quello è quello più grave. Come quello che non vede i colori, insomma. C'è quello che non distingue invece il cambio di tonalità, cioè capisce che la melodia è la stessa, però non si rende conto che magari è suonata su una tonalità diversa. Certo. C'è quello che invece fa fatica a produrre una melodia, quindi ne fa proprio un'altra, che non si riconosce la melodia di base. C'è quello che invece la riproduce, ma la riproduce con una tonalità sbagliata, quindi o cresce o o cala. Per cui può essere anche una diseducazione, perché se c'è un attore che è intonato, infatti, non è solo abituato a cantare. Soprattutto queste ultime due sono assolutamente rieducabili se viene allenato fin dall'infanzia il soggetto, perché ci sono poi delle connessioni interneurali che si sviluppano, che, certo, che migliorano un pochino il riconoscimento percettivo per cui, della, per mia moglie, dell'intonazione. Non c'è più tempo, ho capito, perché l'ha superata quella fase. Okay. Senti, caro Franco, ti ringrazio davvero. Grazie, grazie, grazie per questa bella passeggiata all'interno della voce declinata in maniera sublime. Ci sentiamo prestissimo. Ok, buona voce a tutti. Buona voce a tutti. A tra poco. Ciao. E anche voi con Voice Anatomy restate con noi, perché tra poco avremo al telefono un grandissimo, Paolo Poli. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. E come ha detto Franco, buona voce a tutti. Potete togliere un po' di bassi alla voce, così non si ascolta bene, Roberto. Ma fallo tu dalla tua radio, non possiamo togliere noi, se no viene piatta. Allora, signori, come ho detto, sono veramente contento, emozionato e felice di ospitare questi grandissimi personaggi, ma lui veramente è molto grande, non parlo dell'età. Paolo Poli, benvenuto. Benvenuto. Lei invece deve parlare dell'età. Perché è un esempio per tutti, Paolo, lei. Per tu, carità, tu. Perché bisogna mangiare poco e lavorare molto e si arriva alle più tardi età, però... Cosa mangi tu, Paolo, per capire? Tu quanti anni hai in questo momento? 87. E non sentirli, perché uno diventa sordo, per questo non li sente, non ho capito. Per questo, sì. 87 anni, Paolo. Mi ripetisce un po'. On retombe en enfance, dicono i francesi. Sì. E quindi va bene così. No, perché io, Paolo, ti ho visto saltellare fino a poco tempo fa al Teatro Eliseo, insomma, io sono testimone, a parte ti ho incontrato qualche volta nei nostri tournée, ho avuto il piacere di interloquire e fermarmi dopo certe repliche a parlare con te quando stavamo con la premiata ditta dei ricordi a Firenze, sì, fantastici, ma ti ho visto saltellare e io non riesco in quella maniera, io sto perdendo il tendine d'Achille e tante altre cose. Perché hai portato troppo i tacchi alti. È vero. Allora è quello, capito? È quello che mi deve ha... fare attenzione. È il polpaccio, infatti, sono i gemelli. Paolo, adesso sei a Firenze, immagino, sei a casa. No, sono a Roma. Sei a Sto Roma? Sto parlando da Roma. Ah, è la città che amo molto io. Una città che ho scoperto, ma io amo molto le grandi città. Anche Milano, nonostante la pioggerellina, la nebbia... E il carattere un po' ombroso, noioso, ombroso degli abitanti. Però Roma invece è più solare, c'è una luce e poi i monumenti. E Napoli? E Napoli, Paolo? Napoli? Napoli? Anche Napoli, ci sono stato ultimamente, grandissima città, però città morta dalla storia. La schiacciata con i suoi piedi di bronzo, come direbbe D'Annunzio. Vedi, questa è un'analisi bellissima. Hai visto, hai sentito qualcosa del professore che ti ha preceduto sull'analisi della voce dei nostri politici? Perché questa è una trasmissione che si occupa, sì, sì, di voce. Della voce. E ascoltare la tua voce sembra che non abbia avuto nessun tipo di cambiamento. La radio è stata la mia prima esperienza teatrale. Eh sì. E nel 35 mio padre comprò la radio. E allora in quegli anni non tutti ce l'avevano, no. Anzi venivano i vicini, dice, possiamo venire sabato prossimo a sentire da voi l'opera, sì? E allora io col ditino avevo 5-6 anni, ma già sapevo leggere e seguivo i libretti d'opera, mira Norma ai tuoi ginocchi questi cari pargoletti. Ecco, per cui Paolo sei d'accordo con me che prima non era un elettrodomestico, lo è diventato dopo, sia la radio che la televisione. Prima era un momento di aggregazione molto importante, era veramente il momento in cui la famiglia si riuniva, anche il sabato sera se vuoi negli anni 70, quelli che mi riguardano un po' più da vicino, era il momento in cui mamma, papà, tu, il fratello, la sorella che avevo, nonno e nonna si sedevano davanti al televisore per godersi una varietà di una volta, senza nulla togliere, sì, a niente. Però... Vianello, sì, Dio sì. Mio. Delia Scala, Bice Valori Scala, e, sì, sì. e il grande Paolo Panelli, aiutami, quanti se ne sono. Io adesso proprio comincio uno spettacolo proprio giovedì prossimo a Roma che si intitola proprio C'era una volta, signori e signori, buonasera, che è un percorso su quello che non c'è più, ma senza tristezza, ma con grande gioia, con un'analisi invece di quello che ti regala adesso. Hai voglia, sai, abbiamo ancora Franca Valeri. Sì. Però insomma tutti un po' malmenati dalla storia di cui dicevo prima. Schiacciati da anche questa storia. Anche se non schiacciati, coi piedi di bronzo abbiamo avuto dei ceffoni e delle sberle terribili. Eh sì, ti tolgono magari la voglia, se riescono a togliere la voglia a voi, penso un po' i giovani che si affacciano in questo ambiente sempre più difficile, che dovrebbe essere più facile perché ci sono tante televisioni, ci sono tante radio, invece sembra che ci sia meno possibilità adesso. Si sparpacella proprio. Il valore delle persone. Noi si faceva un lunghissimo apprendistato, fino a 40-50 anni nessuno sapeva della nostra esistenza. Guarda, caro Paolo, ci stanno inondando di messaggi, questa è una radio molto importante, questa è anche molto attenta, devo dire che c'è un pubblico veramente attento. Pino, ti accorgi come la voce di Paolo è bella perché lui sorride quando parla, e questo è un messaggio, è vero, sorridi quando parli, è vero. Che rideva cantando Appari la senna, e rideva. Sembra il Maurice Chevalier a un certo punto. Sì, al suo paese, che è Monsummano Terme, hanno levato il nome al teatrino che si chiamava Giuseppe Giusti per mettere quello di Yves Montand. Quindi io ho dovuto fare due interviste, una sul morto che è stato cancellato e uno sul morto che è stato messo. È stato messo in rilievo. Il Montand aveva origini italiane o sbaglio, Paolo? Sì, era di Monsummano Terme. È vero, era proprio di lì. Ivo Livi si chiamava. Ma pensate, come Dino Crocitti, Dean Martin, cioè abbiamo veramente delle cose interessantissime. Paolo Poli è un grandissimo. Ma per carità. No, è un grandissimo, è giusto. Quando mi dicevano lei è un grosso attore, dico no, quello è Tino Buazzelli. Quello è Nero Wolf. Un caro amico, sì. È un altro grande, bellissimo. Che mi portava a mangiare. Sei troppo magro. Io non mangiavo nulla. È vero, tu sei sempre stato molto magro. Anche Lucia, anche tua sorella si mantiene. Mia sorella è ancora lavorante. In questo momento si trova a Firenze, in una saletta, non so quanto grande, è lì che gliela racconta. L'età anche di mio papà è veterinario, ha 87 anni, è una persona vivace, allegra, positiva e anziana. Però vedi che bello, cioè lo vedi, una persona che arriva a una certa età, ovviamente anche la natura ti deve dare il suo apporto, però è quando sei vivace, allegro e positivo, che sono credo un triunvirato di parole giuste. E poi bisogna fare come Ferruccio Soleri, le scale. L'Arlecchino famosissimo. L'Arlecchino, lui fa 3 piani di scale in salita 3 volte al giorno, e che arriva... E lui c'ha un anno più di me. Ah, lui, ecco, infatti ti stavo per chiedere quanti anni ha Ferruccio Soleri, che col grande Estrella ha fatto un successo 88, pazzesco. E fa ancora le capriole, Dio mio. L'Arlecchino servitore di tuoi padroni, storico della messa in scena di Streller al Piccolo di Milano. Beh, veramente. Mette la testa in terra, e tira su le zampette e fa la capriola. Tu non le fai capriole, però ti ho visto saltellare già l'altro anno, no, saltellavi. Poco. E io con prudenza. Qual è il segreto, insomma? È veramente essere allegri, positivi, ottimisti, oppure è soltanto il mangiare bene, vivere mangiare una certa idea e lavorare poco? Però buone cose. Ma io ho mangiato durante la guerra di tutto. Oggi al ristorante un cameriere mi dice: guardi, signor Poli, un pane fatto con le patate. Sai cosa ho mangiato io durante la guerra? No. Il pane fatto con le ghiande, con le vecce, perché anche nel povero 800 il Collodi sapeva queste cose. E allora il povero Pinocchio, quando va col Colombo a volo, si fermano in una colombaia e il colombo mangia le vecce. Nessuno sa più cosa sono le vecce. Sono delle specie di ghiande che servono agli uccelli. E allora Pinocchio, un po' storcendo il naso, che ce l'aveva così lungo, mangia le vecce. Che fanno bene. C'è un, sì, c'è un, uno slogan antico che dice: in tempo di carestia è buono anche il pan di vecce. Sì. Perché i poveri facevano così. Il pane con tutto. Che bello. Paolo, tu sei libero tutte le domeniche, almeno un quarto d'ora a domenica, per raccontarci una storia. Per carità. Per carità. Senti, Paolo, sei anche molto impegnato in negli audiolibri, che ho avuto anche io il piacere di condividere. L'altra settimana abbiamo avuto ospite la nostra comune amica della Emons, e tu hai fatto delle cose molto importanti, l'audiolibro, quello integrale delle ricette di Pellegrino Artusi, visto che sei poi... Sì, è dove ho imparato a leggere io, perché ero goloso sì, del riso, delle frittelle di riso che da noi si facevano in Toscana per San Giuseppe alla metà di marzo. A primavera. Per cui la mia festa, io mi chiamo Giuseppe, San Giuseppe, vedi, Pino e il povero diminutivo. Paolo, adesso che cosa fai? Sei in teatro? Sei in giro? Sei soltanto per vacanza? No, non faccio nulla. Nulla? Sei solo... Sono qui con il rileggo Proust, e non si finisce mai. Sì, sì, perché è lungo, eh. È come la Bibbia. Sì, Proust, ogni tanto trovi anche qualche parola che hai saltato, qualche libro che uno ha saltato senza accorgersene. No, io li ho letti tutti con affetto, perché... insomma, all'epoca mia avere dei libri era un dono di Dio. Sì, è vero. Poi la radio era la voce del tiranno. Ah, certo, quel periodo lì, sì. Mi ricordo mio padre impallidì quando ci fu la dichiarazione della Seconda Guerra Mondiale. Lui aveva fatto la prima ed era stato ferito durante la prima. Sicché, sai, non era una gioia la guerra. Mentre invece tutte le trombe squillavano, perché Mussolini aveva paura di arrivare in ritardo, perché Hitler correva, arrivava a Parigi in un attimo. Vedi che bello ascoltare queste storie. Paolo, siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro intervento, del tuo intervento. Io ti terrei stretto fra le mie braccia fino a stasera. Io ti ringrazio della tua disponibilità, davvero. Qui altri messaggi, che bello ascoltare Paolo con queste storie che ci riportano indietro, ma ci fanno sorridere e ci fanno emozionare. Anche noi quattro fratelli con cane e mamma ci ascoltava la radio la sera. Che bellezza, che emozione. Paolo, io ti abbraccio forte. Anche a te. Grazie. Un abbraccione. E buona research. O sì. Come si dice con la pronuncia giusta l'ultimo di Proust. L'ultimo grande libro dell'Ottocento. Esatto. Ti abbraccio forte, ciao, Paolo. Ciao. Grazie, buona vita, grazie. Arrivederci. E noi tra pochissimo con Voice Anatomy, da Paolo Poli a Shade. Un salto mortale ma molto divertente. Questo offre la nostra trasmissione. A tra pochissimo. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, anche oggi una puntata ricca, ricca di sfaccettature, si va un po' dappertutto, si naviga. Altri messaggi per il nostro Paolo Poli: mi manca tanto l'eleganza, il grande gentiluomo, anche maestro di vita, intelligentissimo, quanto magico, fantasioso, ironico, Paolo Poli, grazie. Da Lucia tanti altri messaggi per lui, c'è un'altra persona, generalmente mi sintonizzo su altra rete, sono arrivata a voi per caso e perché le mie orecchie non ce la facevano più a sentire i soliti strilloni, grazie. Pino, ora non vi mollo più, felice di ascoltare un grande teatro, eccetera, Paolo Poli, più grande affascinante, eccetera. Grazie da parte di Mina, sì, gli mandiamo un bacio da parte tua, ma glielo diamo tutti, sperando che s'attacchi quella forza di vivere che ha lui. Bene, allora ve lo presento tratto dal suo ultimo CD, che è difficilissimo da pronunciare, Mirabilanzia era più facile, questo Clownostrofobia, divertente, di Shade, finalmente approdato. E parleremo con lui tra poco, ma prima un primo contributo di un pezzo, il titolo ve lo leggo, credo che sia quello, si intitola Stronza Bipolare, ovviamente io sono il conduttore, non porto pena, prego. Eri così bipolare che quando lo facevamo era una cosa a tre. anche se eravamo solo io e te. Ti ho salvata con due nomi sopra il mio cell. E mi chiedi come va, bene, anzi male. Sono notti che mi sveglio, non smetto più di ansimare. Ma sì, amen, ti chiedo di non passare passi uguale. Lasci così tanta mare in bocca che lo potrei masticare. Mai sfidare uno pazzo più di te. Non ti fidare della brava gente, il TG ti chiederà di me. Direi che strano salutava sempre. Io ti adoro anche se sei un'ansia vivente. Pazza di me, pazza di mente. Me ne fate mille ma mi passa di mente. Il mio analista che cosa direbbe? Sono il tipo che lascia le porte aperte, che ti sorride anche quando non si diverte. Probabilmente sei pazza da sempre. Mi avrai rovinato anche la vita precedente. Forse stavo meglio quando c'eri tu. La verità fa male, le bugie di più. Sei stronza e bipolare, quindi ti parlo al plurale. Dimmi che tanto mi odi in entrambi i modi e non c'è niente da fare. Perché con te non so mai con chi sto a parlare. Sei stronza e bipolare, tu sei due persone diverse con la faccia uguale. Sei stronza e bipolare. Il tuo cuore è diviso in due, un bilocale in cui c'è poco spazio e ci vivo male. Ti vedo lontana pure da vicino, lente bifocale. E io sono qui a parlare con un altro. A me non riesco ad andare a tempo, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Che Shade mi perdoni, King del Freestyle 2013, il nostro grandissimo amico di questa radio. Non è la prima volta che è ospite. Poi parleremo anche che tipo di collaborazione è nata fra me e Shade, per sentirmi ancora un po' più giovane. Carissimo, sei con noi? Ciao Pino, ciao a tutti, buongiorno. Eccoti, tu sei a Milano, vero Shade? Sì, sono qui. In diretta dagli studi di Radio 24. Senti, è uscito finalmente questo Claustrofobia. Tu sei in giro per l'Italia a presentarlo ovunque e soprattutto vedo le foto. Sì, una, ormai ci vediamo. Una pletora di fans, anzi plurale, fans. Esatto. Che ti seguono ovunque. Io sono stato veramente molto felice di averti conosciuto e poi diremo anche in che tipo di collaborazione è nata per questo disco, e sono veramente contento che tu mi abbia ospitato all'interno. Magari sono contento io. No, sono contento io sono quell'anziano che grazie a te si è levato almeno 20-30 anni da qui. Ma va. Beh, come ma va, dai. Senti, come sta andando intanto il disco? Beh, sta andando molto bene. Abbiamo esordito settimi in Fimi, quindi non era neanche una settimana facile perché c'erano un sacco di uscite di altri artisti. Poi... E poi non è facile proprio il CD, cioè non è più che si venda come no, una infatti, volta, insomma. Non infatti. È CD. L'importante sono le serate che si fanno grazie alla rincorsa e ai pezzi che uno poi riesce a mettere. Beh, esatto. Settimo. Ci arriviamo al disco d'oro. Il disco d'oro quanti CD sono adesso? Sono 20.000. Ci arriviamo al disco ma d'oro? Ma non lo so. Forse ma se compro qualche copia io. Ma no, Shade, no. Vedrai che dopo questa... È una radio questa larga, ovviamente. C'è un pubblico di persone grandi, ma anche molto giovani. E questa trasmissione sta creando parecchia affezione, non infezione, ma affezione anche da parte di un pubblico più giovane, perché i doppiatori, gli attori, poi giustamente passiamo da Paolo Poli a te, a me, a Cristiana Lionello, a Albertazzi. È bello questa, siamo bipolari pure noi, siamo tripolari. Sì, ma è fantastico. Ma è giusto che sia così. Adesso ti trovi a Milano, ma stai ancora in giro a lanciare il disco oppure sei in serate? Che cosa stai combinando? Allora, ho appena finito il giro nelle Feltrinelli per fare l'instory, firma copie, eccetera, del disco. Ma se ne hai firmate, dai, ci siamo arrivati lì a tante. Oh. Ne abbiamo fatte un po'. No, guarda, non so il conto preciso. Ma dobbiamo arrivare a 20.000, Shade, dobbiamo festeggiarli qui in radio. Guarda, se lo faccio sicuramente vengo qui a fare la festa ufficiale. Sì, ma vieni a Roma stavolta, basta. Ma sì, ma io adoro Roma, è stato uno dei firmacopie più belli in assoluto, veramente. Uno dei firmacopie, guarda, dopo che Paolo Poli ha detto una città fantastica, con dei monumenti storici straordinari, tu mi parli di Roma come il miglior firmacopie. Guarda, è perché io ho girato tutte le città italiane, sì. Però ho visto solo le Feltrinelli praticamente, perché sì, ci credo. Stavo come lì gli Stuart, esatto. I piloti d'aereo, dice beati voi che viaggiate, sì ho capito, ma io vedo gli aeroporti. Bravissimo. E gli alberghi degli aeroporti. Però un'altra cosa che ho visto oltre le Feltrinelli sono le persone che erano lì presenti, sì. E devo dire che non sono belle come i monumenti forse, però mi sono rimaste altrettanto nel cuore. Ma sono quelle che ti permettono poi di vivere del tuo mestiere, di amarlo, di continuare a farlo. Cioè, un monumento non è che il Colosseo poi va in banca e dici guardi ho visto il Colosseo. No, esatto. Mi date sto mutuo? No, infatti tu sei sempre molto vicino e vedo anche nei tuoi social sei sempre molto presente, rispondi veramente a tutti, come dovrebbe essere. Come dovrebbe certo essere. No, ma è il minimo che io possa fare per loro comunque. Beh, ho visto delle foto, c'era veramente una fila imbarazzante. No, dai, sì, dai, bella. Sì, specialmente alcune piazze poi mi hanno veramente sorpreso, quindi... E guarda che non è facile, anche quando abbiamo fatto noi qualche presentazione anche magari di un DVD importante, di un film, di una cosa, non c'è, non credere che sia così facile riempire certi posti. No, assolutamente, anche perché oggi come oggi è molto facile mettere un mi piace su Facebook, esatto, però far uscire presenti, la gente di casa, farla aspettare magari anche sotto la pioggia, come è successo a Napoli, a Lecce, che... pioveva di rotto, e poi trovare delle persone lì che ti aspettano per nonostante di botte fratici ti sei arrivato finalmente. Sì, guarda, io chiedo sempre scusa per l'attesa, perché poi specialmente in quei casi lì, poverini, sono fradici. Potrebbero farli entrare nei negozi o sono all'aperto questi negozi? No, purtroppo le code spesso e volentieri le fanno fare fuori. Non decido io la logistica, quindi me li ritrovo perché lì. Perché magari sono tanti, Io non ho mai visto le code per quanto riguarda le mie cose fuori, per cui vuol dire che i tuoi erano veramente tanti, Shade. No, erano abbastanza, dai. Diciamo, sì. Per essere io... Dove per essere io? Non per ti essere buttare me. Giù. No, ma quanti anni hai, scusa, Shade? Io sono molto più vecchio di quanto sembri. Io ho 28 anni. È vero. È un macello, ormai la vita è finita per solo te. Che esatto, non c'è più niente da dire. Cioè, adesso io che devo dire? No, però te? C'è da dire che vocalmente ed esteticamente sembro più piccolo. A chi lo dici? Io sembro veramente un bambino. Ho finito di doppiare l'ultimo di Will Ferrell, che tu ami tantissimo, e ti ringrazio dei ringraziamenti che hai messo nel disco, soprattutto per essere la voce di Will Ferrell. Non sarebbe così bello se non ci fosse la tua voce, Pino, lo sai. Ah, quello è stato divertente. Un po'... No, io sono stato veramente contento. Spero che ti sia un minimo d'aiuto, che sia un featuring leggero, carino, che possa soltanto arricchire il tuo CD, che è già abbastanza ricco, insomma. Guarda, è anche molto bello, devo dire, divertente. È stato graditissimo il tuo skit, ecco, anzi... l'importante sono le persone che tu senti quotidianamente, se sono contente di questa interazione con te. Guarda, giusto stamattina ho scritto un post chiedendo quale fosse la traccia preferita del disco, e tutti hanno scritto quella in cui 17 ci sei tu. Idol. 17 Idol, esatto. Niente, dobbiamo fare il singolo, e a quel punto il disco d'oro, vengo a prendermene un pezzetto pure io, dai. Esatto, te ne do una fetta. A questo punto la facciamo sentire dall'inizio con lo skit, perché poi quando c'è da cantare entra Shade, ovviamente. Allora, alla ascoltiamocela. Grande. 17 Idol! Silenzio in aula, per favore! Zitti! Anche lei, signor Shade, si alzi. Mi guardi negli occhi. Alzi quello sguardo, signor Shade. Non mi commuove, lo sa? Si rende conto che quella ragazzina era minorenne? E lo sa che il padre è incazzato nero? Eh? E come la mettiamo, signor Shade? Come la mettiamo? Allora, signorina, prego, mi dica esattamente il punto dove il rapper l'ha toccata. Shade! Guardi il mio profilo e dici, sembri proprio figo, sei il mio rapper preferito, con il rap tu sei un prodigio. Con queste minorenni, lo sai cosa ho capito? Che essere profica non è molto proficuo. L'amore non è età media, ti atteggi la terza età quando hai l'età da terza media. A recitare il ruolo della persona seria, mi sento più Wikipedo che la tua Wikipedia. Pensare che dalle foto sembravi molto più grande, non c'era scritto retrica ma c'era scritto brothers. Hai un seno gigante, mi ripeti che mi vuoi, io non ti avrei messo manco un mi piace col seno di poi. Nemmeno mi conosci, ma oramai io ti conosco. Da quante foto posti sei famosa in ogni posto. Sei una favola e baci anche i rospi, ma per loro sei la bella addormentata ed io sono Bill Cosby. Più guardavo le tue foto, più sembravi una mil, e invece sono innamorato di una 17. E forse sono io che sbaglio a farmi un po' troppi film. Sei la mia 17, sono apro, sono il tuo 17 idol. Mi soffocherei nelle tue calze di nylon. Ti metto così tanti cuori quando ti like, che potrei fare i trapianti di cuore con l'iPhone. A saperlo non ti facevo salire in auto, facevi discorsi scemi, alzavo l'audio e la radio copriva cosa dicevi. Ora che sono arrestato, quando entro gli altri detenuti fanno l'applauso. Ti avvicini e poi mi dici bella festa, non ci sto provando mica, sì bella questa, è peggio di tutte le altre insieme quando presta. Mi scrive così tanto che mi viene il mail di testa. Spiegalo tu al giudice che magari mi aiuta, che non t'ho mai toccata, è stata una toccata e fuga, che l'arancione non mi dona se mi metto in tuta. Poi guarda che foto metti, chiunque t'ha vista nuda. Guardavo le mie foto, sembravi una milf, e invece no, dai, divertente. Poi c'è il finale anche con me, ma lo mandiamo, quello è un po'... restricted, come sì, mettono gli americani sui dischi, explicit lyrics. Content, esatto. Non si può mettere. Stavo vedendo in questi giorni, è uscito in DVD il film dei grandissimi NWA, dei Compton, sì, Ice, esatto, Cube, Dr. Dre, che bello. Straight Outta Compton. Esatto. Esatto, l'hai pronunciato benissimo. Ormai non mi azzardo più a dire cose in inglese in questa radio perché vengo mortificato. Ma in come? No, lascia stare, guarda, lascia stare. Qui fanno dei complimenti, ti salutano, ti ringraziano. Sono una persona che ha comprato il tuo CD e si sta divertendo moltissimo, perché sì, è divertente. Che differenza c'è con l'altro, con il tuo Mirabilanza? Che strada stai percorrendo, Shade? Stai evolvendo? Ti piace quello che stai facendo? Beh, sicuramente sì, mi trovo molto meglio a fare questo tipo di canzoni. Adesso non nella fattispecie 17 Idol, che è molto più divertente. Questo è divertente. Però ci sono delle canzoni nel disco molto più intime. Quale sei più affezionato? Patch Adams? Patch Adams è la mia preferita in assoluto, perché... Ma la mettiamo dopo, tanto stai anche l'altro blocco con noi e apriamo con Patch Adams, che è anche uno degli uomini che io preferisco. A parte un film straordinario con il grande indimenticato... Robbie Williams, che è un film fantastico, dove poi è nato quel tipo di attenzione ospedaliera di malati oncologici bambini, dove un medico giocava ad essere clown, ma era un medico, non dimentichiamolo mai. Esatto. Per sì, cui quella è la tua preferita, Patch Adams. Esatto, tra l'altro Patch ha avuto modo di ascoltare la canzone e di leggere il testo tradotto e ci ha fatto pervenire la sua approvazione, quindi probabilmente in primavera sarà in Italia. Se avessi occasione di conoscerlo sarebbe fantastico. Ma io credo che sia una persona molto accessibile, visto il suo cuore, quanto è grande e come vive la sua quotidianità. Immagino che sia subissato di richieste, di proposte di intervento. Esatto. Però sì, io credo sì, il fatto che abbia accettato, ecco, quello è un altro bellissimo nome nel altro che Pino Insegno. No, Patch Adams, no, scherzi. Sono due cose anche diverse. Anche i tuoi colleghi, però... chi c'è di featuring insieme a te dentro il disco? Ci sono altri colleghi e amici? Certo, c'è Fred De Palma, che è un mio caro amico, sì. con il quale ho condiviso anche un bel percorso sul web con il video Sei Rapper. Sei Rapper fossero noi. Esatto. E l'altro è Blue Virus, invece anche lui è mio caro amico. E anche lui, avendolo in studio tutti i giorni, è nato in maniera abbastanza spontanea. Dovrebbe essere tutto così, anche nel mio di ambiente, dove dovremmo collaborare di più tutti quanti per aiutarci di più nei momenti che poi magari uno cala un po', c'è l'altro che ti aiuta. Ma certe volte siamo un po' sordi in questo. Resta con noi, Shade, anche voi, un minuto e torniamo per l'ultimo blocco di Voice Anatomy. A tra poco. Voice Anatomy. Oh minchia, sono del Fred De Palma, dove andati in merda? Mica tutti babbi, se i rapper fossero rapper devono fare. Sti venduti. Non fate con FDP. Mi chiedi come faccio io, che minchia ne so. Faccio i pezzi rap, quelli hardcore, quelli dance, quelli low. Mi senti rappare, dici minchia che flow. Di un'altra razza, discendo dalla scimmia che c'ho. Da quando faccio gli extra, tutti pronti a correre nello spazio. Ma questi rapper li do la polvere. Io ascolto i tuoi pezzi e muoio da ridere. Tu ascolti i miei pezzi e muori da rodere. Sti babbi che parlano dei miei testi, parlano di contenuti come se non ce li avessi. Poi fanno soltanto foto nudi davanti agli specchi. Io entro sulla traccia, voi vi casca la faccia dai selfie. Mi pezzi per duro dal vivo, se soffi c'è nei palazzo. Non ci torno da ospiti a furia di dare agli eterni anche i porci. Finisce che i porci poi sembrano ospiti che t'abbasso la testa. Fra ti faccio le tre fine giù, ho visualizzato la tua fine. I defettine blu, fine la asciugamano, vuoi pista asciugamero. Se lo faccio spero che ne chiuda uno almeno. Una. Fine la asciugamano, vuoi pista asciugamero. Ogni volta che lo chiedi io mi chiedo se i rapper fossero noi, che facciamo gli extra beat pure ordinando una pizza. I rapper fossero noi, che la tipa si incazza fra non ci. Che carica energetica questa canzone, ci scrivono anche altre persone. Questa era Se i rapper fossero noi, molto molto Bone Thugs and Harmony. Per chi ama il rap sa quello che sto dicendo, della famiglia dei Crazy Bone, Lazy Bone eccetera. Sì, questa... per farti capire che insomma beh, non ne stai sai, parlando. Ma lascia stare, guarda mia, da questo punto di vista lasciami stare, guarda, sul rap non ce n'è per nessuno, neanche per voi pischelli, ok? Guarda che nel prossimo disco ti faccio rappare, Pino. No, voglio rappare, io voglio rappare, cioè, ho così bisogno, ci mandi a casa pure con quello. Ma a casa via, andate via tutti, ma me devi scrivere tu, amico mio, il freestyle me devi scrivere, devo seguire i tempi giusti, no? Devi avere il cuore, il beat che batte insieme al al ritmo. Questa anche molto molto divertente, molto molto, sembra un po' Public Enemy, molto arrabbiata, Sì, questa sì, questa è bella spinta, anche perché appunto facendo quel percorso sul web in cui giocavamo con gli stereotipi dei rapper, quindi se i rapper fossero educati, se i rapper fossero religiosi, e facevamo questi freestyle molto comici, no? Sì. Molti ci avevano mosso un po' l'accusa di dire: però allora non siete dei veri rapper. Allora abbiamo fatto sto pezzo un po' più incazzato, se si può dire. Aspetta un attimo, qui non capiscono una cosa. Adesso fai pure l'elogio della pedofilia, ma sei impazzito del tutto, come ti è passato la testa? Allora non hai capito, questa canzone rap è il contrario. Esatto, il contrario. Assolutamente. Vedete, come dire... dovete stare, voi, io dico sempre, siete un pubblico attento, ovviamente qualcuno sfugge a tutto questo. Quella canzone è esattamente il contrario, è un monito per tutti quelli che vanno con una minorenne, anche di un, anche se sei anche tu un minorenne, un maggiorenne, eccetera, 17enne, eccetera, rischi. Se non c'è, ovviamente, se non è consenziente, rischi sempre, ma anche se è consenziente, si rischia, c'è una legge che può punirti allo stesso modo. E quella canzone, 17 Idol, racconta esattamente questo. Esatto. Che c'è un giudice che dice: ehi, non lo sapevi, è minorenne, era anche d'accordo, ma i genitori no. Per cui rischi anche in quel caso. E questa canzone può essere anche un monito per tutti quelli, esatto, che pensano di abbindolare una minorenne e portarla da qualche parte senza consensi alcuno, non diciamo soltanto che il suo. Noi, a differenza di certi esponenti italiani, esatto, ci fermiamo prima. Esatto, è un esatto. Allora, questo io immagino che tu l'abbia ascoltata un po' di corsa, hai pensato al gioco di andare con una minorenne. Non è così, lui pensava fosse grande, una MILF, che poi ti spiegheremo, puoi andare in certi siti e ti spiegheranno che cos'è una MILF, e invece si trova di fronte una minorenne e il giudice infatti alla fine lo condanna. Va bene, abbiamo spiegato, è giusto spiegarlo, perché magari può essere, certo, sfuggito anche ad altri. Assolutamente sono molto ma molto attenti anche a questo. Ci sentiamo un pezzo di Patch Adams e poi ci salutiamo, che dobbiamo entrare in tutti i convocati per sapere i risultati finali di calcio. Sentiamo un po' di Patch Adams. Ricordo quando hai ritirato l'esame, lo sguardo freddo di chi ha detto non c'è niente da fare. Quanto per lui fosse normale, quasi naturale, quanto ci rimani male quando dice quanto ti rimane. Cambio di residenza, via della sofferenza, un calendario pieno di date di scadenza. Ho un fiore sulla giacca che mi spruzza l'acqua in faccia, così nasconderà le mie lacrime di tristezza. È come dire non correre, forse cadi. Paziente 30, letto 6, reparto 3, negli ospedali c'è chi vede solo cifre disposte lungo 10 piani. Numeri che calano, numeri decimati. E ridi perché ho le scarpe di qualche taglia più grande, ma cammino dove pensi che non sia così importante. Quel filo rosso che vedi non è un prelievo di sangue, con un po' di fantasia può essere il nostro red carpet. E avrò sempre addosso quel grande naso rosso, se mi vuoi sarò il tuo clown, e ti verrò a trovare su quel letto d'ospedale, anche solo a dirti ciao. E riderò e riderai, anche se dentro non sai quanto mi fa male, ma ci sarò e ci sarai, perché abbiamo ancora un sacco di cose da fare. Per farti ridere farei gli straordinari, l'orario delle visite per me non ha orari, ed ho passato sveglio mille notti finché ho smesso di contare. Questa invece di canzone non offre doppia possibilità di lettura, amico mio. Eh no, questa è abbastanza bella, chiara. La farei ascoltare tutta, ma è bello perché questo CD ha stupito anche me, che ti voglio bene, siamo amici, eccetera, però l'ho ascoltato sempre con grande... sono molto oggettivo nell'ascolto e ovviamente mi è piaciuto molto. Non stiamo facendo pubblicità, non è una trasmissione che vende libri o vende CD, ma vende soltanto la possibilità di imparare che cos'è la voce, e bisogna sapere essere anche giusti in questo, cioè amare sicuramente con me della grande Mia Martini e Murolo, e apprezzare anche questo Patch Adams di Shade, che è un'espressione nuova, musicalmente giusta, interessante, intelligente. Poi può non piacere, per carità, però è molto bello. Un'altra, grazie, persona mi riprende e io sorrido perché sto imparando tanto. Allora insegno: stai evolvendo, evolversi è solo pronominale, perciò devi dire ti stai evolvendo. Esatto. Grazie. Non dire pure due esatto, sennò siete due ad attaccarmi, ti prego. No, cioè, no. Tu sei della mia. Assolutamente, lo sai. Grazie. No, ma io le leggo e imparo. Per cui evolversi è solo pronominale. Senti, Shade, prossimi impegni, che succede? Serate, dove vai? Dove vai a fare Baldori e Canore, ovviamente? Beh, il vero tour, diciamo, il tour vero e proprio comincia poi da fine febbraio. Mm-hmm. C'è una data molto grande all'Alcatraz di Milano, il 28 Milano. Febbraio. Però poi ci sarà una piccola anticipazione il 6 di febbraio al Setai di Bergamo. Sarà un po' la data zero, diciamo, quindi cominciamo da lì. Pian piano Roma, poi... Roma? Voglio venire sul palco e faccio lo skit dal vivo. Io non vedo l'ora di venire a Roma. Ci sono un sacco di ragazzi che se non vengo a Roma mi vengono a prendere a Torino loro a casa. Ci sono proprio un sacco di ragazze, hai detto? No, no, ragazzi. Ragazzi. Ma l'importante è che non sembrano MILF, sono 70 idol. No, sono no, no, padre no. Ormai. Ho un gruppo di fan, un nutrito gruppo di maschi che mi seguono, quindi... Benissimo, quindi te li lascio tranquillamente. No, a parte gli scherzi. Senti, amico mio, io ti abbraccio, ti ringrazio e sono stato molto contento di averti sentito ufficialmente. Poi noi ci sentiamo anche privatamente. Tantissimo. E in bocca al lupo. In bocca al Crepi lupo. Crepi il lupo, Pino. Fammi il countdown fino ad arrivare al disco d'oro. Certo, ci sentiamo presto noi, dai. Un abbraccio. Un abbraccio ciao, a te. Claustrofobia. Ciao, grazie ciao, a tutti, ciao. Ciao. Bene, e allora... Adesso abbiamo Capuano, pronto? Eccomi. Ah, sono curioso perché non so neanche un risultato a parte quello della Juventus. E allora ti dico che il Napoli ha risposto, siamo negli ultimi istanti, 5-1, perdeva 1-0. Può sempre recuperare l'Empoli da un momento all'altro. Dai. Sì, l'Empoli si era portato in vantaggio, 28esimo primo tempo, Paredes, poi Higuaín, Insigne, un autogol di Camporese, doppietta di Calleon, insomma, certo. Solito Napoli, però due punti Napoli di vantaggio. È grande così, Napoli è grande così perché fai 5 gol all'Empoli, non è una cosa passeggiata. No, Empoli che no, è una delle squadre migliori di questa parte di stagione. Esatto. Stanno finendo le partite sugli altri campi. È appena finita Bologna-Sampdoria, 3-2 per il Bologna, che vinceva 2-0, poi la rimonta della Samp e poi ha deciso un rigore di destro a 3 minuti dalla fine, rigore su cui c'è parecchio da discutere, come del resto su tante decisioni di questo fine settimana. 0-0 Torino-Verona, stanno ancora giocando. 0-0 Genoa-Fiorentina, il che apre all'Inter questa sera la possibilità di tornare solitari al terzo posto in classifica. E poi, la mia Lazio. E poi Udinese-Lazio, 0-0, siamo praticamente a tempo scaduto, è scaduto anche il periodo di recupero. Hanno finito 10 contro 10 le due squadre, espulso Danilo nel primo tempo per l'Udinese per un calcione a Giorgiovic e poi nel finale espulso anche Matri, che era fin lì il migliore della Lazio. 0-0 è finita. Beh, adesso, bene, sono finite perché, tutte. Perché l'Udinese insomma prometteva invece grandi battaglie dopo le sconfitte che con l'Antone e la sua squadra avevano passato in queste ultime due settimane, prendendo tantissimi gol, hanno fatto il ritiro. Avevo un po' paura, ma va bene così. Ci godiamo stasera Inter Milan o Milan Inter, non so. Milan Inter. Milan Inter. Allora, caro Capuano, io ti ringrazio, buona trasmissione, buona domenica. Grazie a te. Grazie davvero. A un abbraccio prossima. A tutti. Grazie, sì, assolutamente sì. Noi ci rimane un minuto per stare insieme e approfitto della radio per una forma proprio privata. Da giovedì sarò in scena a Roma a un teatro elegantissimo, il Teatro della Cometa, che è via del Teatro Marcello, Piazza Venezia, per cui un posto anche bello dopo, quando uscite, se non vi è piaciuto lo spettacolo, fare una bella passeggiata nel centro storico di Roma. No, a parte gli scherzi, sono ormai 35 anni che faccio questo mestiere, non vado in scena se la cosa non è bella e non piace prima a me. E mi piace tanto questo percorso, perché è romantico, perché è divertente. In scena con me ci saranno i Barahona, anche una splendida danzatrice, filmati con effetti speciali che mi vedono insieme alla Carrà nel Tuca Tuca e Alberto Sordi, altre interazioni con personaggi che non ci sono più. È un bel percorso in un bellissimo teatro nel cuore di Roma, l'Italiana, una sorta di Argentina in miniatura. Sarò lì da giovedì 4 fino al 14, la festa degli innamorati. Mi farò tutta la settimana di Sanremo in scena, così avrò modo di guardare soltanto il pubblico che avrò davanti. Signori, grazie per avermi permesso anche questo piccolo excursus pubblicitario. Grazie Alessandro per la tua prontezza tecnica, grazie Gaia per quanto riguarda tutto il discorso di redazione e il tuo affetto, grazie Alessia Navarro come coordinatrice e autrice insieme a Damiano Fabiani Berti. Deve essere un aristocratico sto Fabiani Berti. Signori, Radio 24, Voice Anatomy, a domenica prossima.